Aye. Ci siamo? Aspetta, ho detto 10 secondi. Ah, al tempi là, scusi. Vai. Eccoci. Grazie di esserci ancora così tanti, devo dire, quarto incontro di questi 3 giorni, una partecipazione notevole, evidentemente il bisogno di, e anche, come dire, non solo gli interventi degli invitati, ma anche i dibattiti che seguivano ogni volta sono stati molto interessanti, molto partecipati, quindi evidentemente c'era un'idea che c'era bisogno di cercare di parlare di questi temi, dei temi della città, restituendo un significato sociale e politico alle parole. Cerco di introdurre brevemente l'incontro che abbiamo chiamato la produzione di socialità disciplinata tramite l'immaginario del turismo e del food. Direi l'immaginario, aggiungerei anche le pratiche, le politiche concrete che portano turismo e food al centro delle scelte delle città e delle politiche urbane. E partirei dalla produzione, uno spunto estremamente interessante che è emerso ieri sera e che in qualche modo però avevamo ben presente perché era già nei materiali preparatori, era sicuramente quello che nella coppia, o meglio che si parla di una coppia, non parliamo solo di repressione, delle forme della socialità o della forma della militanza politica o delle forme di vita che attraversano le città, ma parliamo anche di sempre di produzione di valore, quindi legare questo elemento repressivo con la ricostruzione secondo le linee richieste dal capitale o da, come dire, un blocco compatto che si configura in questa fase storica tra capitale e Stato, che produce appunto valore, che fa scelte di campo sociali molto significative. Quindi non si tratta solo di reprimere, quindi non si tratta in alcun modo né di raccontare ciò che subiamo nelle forme repressive, tantomeno di sporgerci verso istanze caritatevoli, ma si tratta di parlare di come si trasforma la città e su chi viene gettata la croce di questa trasformazione e chi invece ne trae profitto. Direi che l'incontro di questo pomeriggio appunto ha come elemento centrale questa creazione di profitto tramite queste scelte politiche. E questo appunto fortunatamente, ma anche necessariamente, è emerso già ieri sera. Un elemento solo così rapido, spot, su quello che si intende concretamente, per esempio. Abbiamo parlato di repressione anche questa mattina, di repressione della movida, di repressione della socialità spontanea. Allora abbiamo sempre cercato di tenere il punto su questo. Si reprime la socialità spontanea, la movida, l'aggregazione giovanile per l'aperitivo, ma questo è sempre costantemente accompagnato alla necessità di mantenere un appeal in questa città. Quindi chi governa le città deve già da un lato reprimere quelle manifestazioni indecorose, come le abbiamo volute chiamare noi, risemantizzando questa loro orrenda parola, però non può spegnere la vitalità di una città sui temi del cibo, sui temi della creatività culturale, eccetera, eccetera, perché questa città a quel punto perderebbe la pile, quindi il giochino, la continua riproduzione di valore, produzione di nemico ideologico, eccetera, eccetera, si romperebbe. E quindi questo può essere, per esempio, un elemento dinamico che sicuramente terremo presente. Poiché chi governa le città in senso iperliberista ha ben presente questo tema, tra le strategie che ritengo che si utilizzino per appunto evocare questi elementi di vivacità ma spegnere il loro elemento potenzialmente sovversivo, c'è sicuramente quella della sussunzione. Due esempi banali, semplici, sotto gli occhi di tutti. Qui da noi gli attori economici fondamentali, cittadini, quindi LegaCoop, quindi Unipol, in questa fase, negli ultimi anni, nell'ultimo anno e mezzo, con la partnership potentissima dell'assessore Lepore, del multiassessore, del pluriassessore Lepore, sicuramente stanno lanciandosi in quella che è il tentativo di creare dentro quelli che loro chiamano spazi abbandonati forme di produzione di valore e forme di rappresentazione di ciò che è la diversità culturale dal loro punto di vista, quindi appunto sedata, ricondotta alla compatibilità col capitale. Sono i vari i bandi di Unipol, sono i luoghi in cui che loro chiamano innovazione sociale, che chiamano Fab Lab, che chiamano Do It Yourself, tutti questi, questi oggetti che creano e che riempiono di soldi, ovviamente spesso pubblici, o che vengono appunto dalle fondazioni bancarie, fondazioni assicurative nel nostro caso, e che in qualche modo, banalizzando molto, però cercano di riproporre una versione glamorous e simpatica e totalmente imbelle di alcuni dell'autoproduzione culturale dal basso che si è vista e che è circolata intorno ai centri sociali, che insomma ha dato molto senso e molta innovazione reale nelle città. E l'altra strada della sussunzione, forse la più evidente in questa città, è quella del cibo, è quella quindi del cibo genuino, è quella del cibo come luogo in cui ci si trova, si sta bene, il ristorante, la condivisione del cibo come luogo di nuova socialità, ha riciclato e messo a profitto tutto il discorso che nasce anche dal basso e dalla necessità, insomma, umana condivisa di trovare altre strade per nutrirsi che non siano quelle imposte dalla grande distribuzione, che non siano quelle imposte dalle grandi aziende dell'agroalimentare. Ecco, questo lo cerchiamo di analizzarlo sempre dal punto di vista di quali sono i soggetti sociali che si producono, quindi qual è la produzione di valore e quali sono i soggetti sociali che in questa produzione di valore emergono. Esiste per esempio, per quanto riguarda tutta quella parte della valorizzazione degli spazi abbandonati curata dalle vari bandi di Unipol e compagnia, quello che secondo me è una sorta di nuovo parastato precarizzato che si occupa appunto di dare senso e di scimmiottare la partecipazione attorno a questi spazi, ed esiste anche appunto tutto un mondo che egualmente ruota attorno al cibo. La questione del cibo, che è centrale sicuramente a Bologna ed è centrale anche a Torino, che è l'altro polo, diciamo, che per una serie di un po' di coincidenze, un po' di incontri anche nostri, ma anche di sicure analogie, è un altro elemento centrale in cui si bruciano spesso anche un sacco di speranze, si mettono al valore quartieri interi, strade intere, e si produce anche qui nuovi soggetti sociali che possono essere più o meno interessanti. Quello che ci interessa indagare, appunto sempre tenendo presente che repressione è produzione, è l'emergere anche di soggetti con cui noi possiamo entrare in rapporto, quindi quelli che in qualche modo rappresentano l'altro lato di questa produzione, quelli che sono gli scarti di produzione, quelli che sono per esempio gli sfrattati della città, e sui temi appunto necessariamente arriveremo sui temi del diritto alla casa e della lotta per la casa, che appunto è l'altro aspetto, che è l'altra faccia della produzione del valore attraverso il turismo e il food. Ecco, non ho ancora nominato il turismo perché insomma attraversava tutto il mio pensiero, ma non l'ho esplicitato. Ovviamente appunto turismo e food in entrambi i casi, forse in maniera ancora più forte in questa fase storica per Bologna, è assolutamente centrale. Il turismo sappiamo bene, ma ce lo racconteranno anche gli invitati, come si è capace appunto di mettere a valore un'intera città producendo una serie di soggetti che invece sono i perdenti. Ci interessa indagare questi come possibili alleati di una lotta, così come ci interessa indagare anche come possibili alleati di una lotta quelli che sono gli sfruttati della città del cibo e del turismo, e sono per esempio i lavoratori della logistica, sicuramente sono i lavoratori pagati o non pagati del mondo della ristorazione, che è uno dei pochi che in qualche modo ancora garantisce qualche possibilità occupazionale, ma che è devastato veramente dalla possibilità di sottopagare e di talvolta non pagare addirittura i propri lavoratori. Quindi in questi cerchiamo le nostre alleanze. Sicuramente il tema Airbnb salterà fuori perché è potente, sapendo che anche quella, esattamente come la storia delle ordinanze, è una storia che viene da lontano, cioè non è la storia di un'app, non è la storia solo della gig economy, ma è una storia che ha anche delle basi legislative più antiche. Qui in Emilia Romagna è stato molto pompato in anni, diciamo, non sospetti, la possibilità di affittare la propria camera, e adesso in qualche modo è esplosa grazie a queste possibilità tecnologiche e ai rapporti sociali sempre più devastati che stiamo vivendo. E ci interessa anche non perdere di vista quelle che sono resilienze individuali, io le chiamerei, e do tutto il termine negativo che si deve dare alla questione della resilienza, nel senso che non abbiamo solo gli sfrattati che in qualche modo vengono intercettati alla lotta per la casa, non abbiamo solo chi non può più pagare l'affitto perché quel quartiere, la Bolognina ovviamente è l'esempio per eccellenza di tutto ciò, deve a tutti i costi diventare un quartiere turistico, ma abbiamo anche quelli che in qualche modo attuano strategie individuali di riduzione dei costi, tipica appunto l'abbassare il riscaldamento e stare al freddo, per sopravvivere a un'era di affitti crescenti e di costi crescenti. Ecco, questi per esempio, farli uscire dalla loro strategia di resilienza individuale e intercettarli in una strategia di resistenza collettiva può essere molto interessante. Io chiuderei qui, per appunto siamo in tanti, spero che ci sia un bel dibattito. Vi presento gli ospiti che sono dalla mia partire dal più vicino, che è Giovanni Semi, sociologo, autore di Gentrification, un testo io direi fondamentale per affrontare questi temi. Magari se hai voglia, due parole, ma proprio due, all'inizio ce le dici anche su come questa parola sia precipitata in un dibattito pubblico che io credo che in parte ancora lo ignori, al di fuori di giri un po' più accorti, però comunque nel giro di pochi anni è arrivata al centro, dal nulla in Italia, da una totale inconsapevolezza di questi fenomeni. Michele di Sociallog, che Sociallog lo sappiamo, una gloriosa storia di occupazioni abitative in città, purtroppo al momento interrotta, che però ha moltissimo da dirci, quella storia e ciò che stanno facendo adesso. Voglio citare gli Student Hotel, che è la creatura, l'orrenda creatura che nascerà in luogo della invece grandissima esperienza della ex Telecom occupata in via Ferravanti di fronte al comune. Questo Student Hotel, per chi non lo sapesse, è una catena internazionale di studentati per ricchi. Nella butto lì, nella successiva riflessione, io ho la sensazione che lo studente ricco sia un po' la sintesi. Ci chiedevamo anche a latere, ma Bologna è più una città turistica o più una città da studenti? Io credo che lo studente ricco sia la possibile sintesi di tutto ciò, perché è uno studente che sta qui 3 anni e vive da ricco, e vive da turista. E quindi questo tema emergerà. E Davide Olori, ricercatore, sociologo anche lui, che ci parlerà anche lui, insomma, di questo intersecarsi tra Airbnb e i mercati del cibo, la brandizzazione del cibo sano, del cibo giusto, del cibo buono e il suo uso per le trasformazioni urbane. Io inizierei da Giovanni e a seguire. Allora, grazie dell'introduzione, grazie a tutti e a tutte, e in particolare sono un grande complimento agli organizzatori, perché questa 3 giorni è veramente molto molto ricca, molto molto bella, insomma, veramente complimenti. Allora, io appunto non vorrei annoiarvi eccessivamente sulla galassia della gentrification, ma vorrei raccontarvi più che altro sia il passaggio di questo concetto in Italia, che un possibile movimento, uno spostamento, almeno da parte mia, di interesse su una questione che è laterale, ma non è così laterale. Allora, da un lato, appunto, riprendendo la richiesta esplicita di Wolf, sicuramente in Italia non si è parlato di gentrification fino a pochi anni fa, per una ragione secondo me molto specifica, molto storica, che ha a che fare con il nostro paese e che invece adesso in qualche maniera sta venendo allo scoperto. Se la gentrification, per dirla proprio in maniera brutale e veloce, è quella produzione della città per utenti, non abitanti, insisto su questa idea, per utenti progressivamente più ricchi, una struttura politico-sociale come il nostro paese, che si è dotata di un'estensione potentissima di proprietà della casa, in cui il tema proprietario ha attraversato tutte le classi sociali e ha veramente innervato la società italiana, è chiaro che ha vissuto la questione del diritto alla casa, del diritto all'abitare, in maniera molto particolare e direi anche piuttosto conservatrice. E quindi è chiaro che se dopo le lotte degli anni 70-80, 60-70 e la coda degli anni 80 per il diritto alla casa, le progressive finanziarizzazioni e spinte all'acquisto dell'immobile per tutte le classi sociali in Italia hanno pacificato quel tipo di dibattito e quindi non hanno consentito l'introduzione di concetti che invece all'estero cominciavano a esplodere e a essere molto diffusi, come quelli della gentrification. Quindi la nostra soluzione italiana è stata molto conservatrice e molto accorta dal punto di vista delle elite politiche, ben intesa, ma molto conservatrice, cioè diventate proprietari prima. È stato un dibattito molto forte nel neoliberismo anglosassone e poi anche francese, no? Quello di una nazione di proprietari, ma quando gli americani, gli inglesi, poi un decennio dopo i francesi hanno lanciato questo dibattito, gli italiani avevano un anticipo su di loro di una ventina d'anni almeno di accesso voluminoso alla proprietà della casa. Allora questo strano rapporto tra gli italiani e la casa, molto mediato dalla politica, ha di fatto tolto un terreno di discussione che era quello tipico della gentrification. Però è chiaro che le crisi dagli anni 90 in poi hanno riattualizzato la questione. Non tanto perché si sia interrotto il nesso proprietario, gli italiani continuano a comprare case, continuano ad accedere all'abitazione per via proprietaria, però di sicuro la fine sostanzialmente, o comunque l'inaridirsi molto, molto forte della capacità di acquisto e del portafoglio, ma proprio monetario, degli italiani, li ha messi in condizioni di pagare sempre di più il bene immobile rispetto al quale devono indebitarsi comunque. E ha messo moltissime famiglie comunque in condizioni di rendersi conto che probabilmente questo accesso ormai pressoché obbligatorio alla casa tramite l'acquisto non è necessariamente un buon affare. Negli ultimi anni, non a caso, il dibattito sul diritto alla casa è ritornato nel nostro paese, per fortuna, non a caso la questione abitativa e la questione urbana sono ricomparse, come appunto insomma, la vostra presenza oggi, ieri e domani ne è assolutamente testimonianza, sono ricomparse con forza sull'arena urbana, e quindi il concetto di gentrification, che raccontava molto bene questo nesso tra proprietà, diritto, accesso all'esistenza in città, chiaramente è diventato uno degli strumenti più comprensibili, più interessanti per discutere di questo tema. Quindi ecco perché secondo me la gentrification è finalmente entrata un po' nel dibattito. Quindi questa è la mia spiegazione di storia politica dell'ingresso di un concetto. Tutto sommato racconta bene una trasformazione che è in corso. Quello che secondo me è interessante raccontare è una serie o un insieme di cambiamenti storici che legittimano il concetto di gentrification, ma che la portano anche a dialogare di più col tema del decoro e del degrado di cui abbiamo parlato oggi e in generale di tutti i temi che Wolf ha già introdotto. Allora qui cerco di farla molto breve, comunque ve la racconto per come io l'ho capita, insomma, questo nesso, queste trasformazioni. Qualcosa è cambiato di veramente radicale nel nostro rapporto con la città e l'urbano negli ultimi 30 anni almeno, e cioè dopo le diverse ondate di deindustrializzazione lunghe, come dire, a macchia di leopardo, contemporaneità e effetti veramente molto diversi da città a città, il che spiega anche perché la gentrification poi è diversa da città a città ed è difficile trovare un modello unico. Ma insomma, dopo questa lunga ondata di trasformazione della città, il ritorno di capitali è passato attraverso la ricomposizione del nesso tra classi e controllo della rendita fondiaria. Cioè sostanzialmente le città sono tornate a risplendere, a diventare protagoniste, si è parlato anche proprio di rinascimento urbano, di ritorno delle città, questo l'abbiamo osservato più o meno dagli anni 80 in poi, perché sono diventate dei luoghi di estrazione di rendita attraverso l'immobiliare, non più attraverso l'attività manifatturiera, che in qualche misura resisteva, in qualche misura resiste ancora, ma non è più la fonte primaria di accumulazione, come lo era stato per tutto il Novecento, per buona parte delle città industriali. Chiaramente io, venendo da Torino, insomma, capite la pesantezza anche di questi argomenti, insomma, per i torinesi, anche quelli di adozione come sottoscritto, la narrazione di una città che si basava su una rendita dalla manifattura, dall'industria che passa nell'entità dell'immobiliare è abbastanza lampante. Mi rendo conto che per esempio per le città turistiche questo tema è un pochino diverso, i livelli di estrazione sono differenti e l'estrazione attraverso il turismo e l'immateriale è cominciata molto molto prima in maniera molto più radicale. Ma comunque insomma, prendendo per buona questo tipo di narrazione, la città contemporanea vede in prima fila impegnati i proprietari di casa e le amministrazioni e tutti i portatori di interesse che in qualche maniera hanno gioco a fare fronte comune per rendere la città e la rendita, quindi il valore della città, stabile nel tempo e se possibile crescente nel tempo. Quindi è una città che, siccome deve nutrirsi di se stessa, siccome deve far valere lo spazio sempre di più, perché quella è l'unica modalità per recuperare del valore in questo momento, non può permettersi di avere o dello spazio inutilizzato, abbandonato. E poi sulla questione dell'abbandono e riuso dello spazio bisognerebbe parlarne per ore, non abbiamo tempo, però chiaramente è un tema iperstrategico, iperinteressante, perché come dicono in tanti, adesso abbiamo tutte le retoriche del riuso, degli riuso temporaneo degli spazi, e non ci si chiede mai come si è arrivati all'abbandono di quegli spazi, come sia stato possibile, legittimo, accettabile che per 30-40 anni ci fossero buchi in città abbandonati, lasciati deperire, chi debba sopportare i costi della rifunzionalizzazione, le responsabilità politiche e le bonifiche. C'è tutto un tema ambientale qui gigantesco che tendenzialmente si evade, perché comunque ci sembra così bella la cosa di riusare temporaneamente con un fab lab un'area abbandonata, che comunque chi se ne frega di quello che c'è sotto l'area abbandonata. Ma comunque in generale questa rifunzionalizzazione collettiva, in cui ripeto siamo tutti coinvolti, noi come proprietari, loro come amministrazione, i vari attori economici, ovviamente con scale di responsabilità molto differenti, però in cui, come dire, compartecipiamo di questo gioco collettivo di messa a valore della città, la città, per poter continuare a produrre o comunque a mantenere in vita molte forme di vita attraverso queste stazioni di rendita, deve essere una città che non spaventa gli investitori, una città che attira nuove popolazioni, popolazioni di studenti, popolazioni di lavoratori, popolazioni appunto di turisti, e che quindi per poter sostenersi, sostenere la propria immagine di città che in qualche misura è interessante, effervescente, attiva, non solo deve popolarsi di una miriade, certe volte in maniera incontrollata, paradossale, di eventi, una bulimia costante di produzione di eventi, perché è un modo per non solo mettere in attività, in circolazione, un po' di lavoro, spesso lavoro precario, ma comunque insomma un po' di attività, quindi è una macchina che funziona anche in maniera autonoma per autosostentarsi, ma anche perché continua a comunicare che la città è attiva e vive ed è interessante, e perché per poter attrarre costantemente gli occhi ha bisogno di lavorare tantissimo sull'immagine, l'immaginario, la rappresentazione. E quindi vedete qui esplodere, ed è un'autentica esplosione. Adesso io da Torino lo sto guardando dall'osservatorio particolare del Torino Nord. Torino Sud in questo momento è fuori dal radar, nessuno parla di Mirafiori, Santa Rita, sono aree che sono completamente scomparse, davvero. Chi segue Torino e i torinesi che sono in sala se ne saranno accorti. Torino Sud non esiste più da qualche anno, nessuno ne parla. Torino Nord invece ne parlano tutti in continuazione. L'esempio per chi di nuovo è torinese segue le vicende dell'arrivo del Corriere della Sera in città e della pagina locale del Corriere della Sera, con per esempio una graphic novel settimanale che è tutta incentrata ogni settimana solamente su personaggi bizzarri, grotteschi, interessanti, creativi, di Barriera di Milano, Aurora, cioè insomma di questa Torino Nord. Chi segue un po' le vicende torinesi si sarà accorto che sono esplosi, continuano a esplodere attività di storytelling urbano, li chiamano così, passeggiate urbane in continuazione, ce n'è una settimana, ci sono dei periodi, la primavera ovviamente si presta molto bene alla passeggiata urbana, la primavera scorsa io avevo degli studenti che stavano facendo la tesi su questi temi qua e non avevano letteralmente il tempo di seguire tutte le passeggiate urbane che erano in corso a Torino Nord, perché era come se ci fosse una transumanza costante di produttori di immagini che si aggiravano per la città con il solo scopo di come dire, relazionarsi con i media locali e costruire una narrazione collettiva di una città che è talmente interessante che però va scoperta perché nessuno sa che esista e che deve essere costantemente passeggiata per essere raccontata. Questo di nuovo a discapito degli abitanti locali che invece si vedono passare queste mandrie di persone interessate che li guardano come, in maniera molto esotica, fossero appunto degli animali in via di estinzione, che però in qualche maniera vanno raccontati perché sono in qualche misura interessanti. E si chiedono magari, e molti dei vecchi residenti se lo chiedono, come mai siamo interessanti adesso, non eravamo interessanti 30 anni fa, 40 anni fa, 50 anni fa. Quando magari invece eravamo produttivi, quando il quartiere era più ricco, stava meglio, era più equilibrato. E così. È una città che quindi deve puntare tantissimo e costantemente, veramente in maniera bulimica, sul raccontarsi. È una città che deve investire regolarmente su interventi di chirurgia estetica, deve attirare interventi architettonici ed è importantissimo l'intervento delle architetture firmate, i cosiddetti star architectures, che sono interessanti anche solamente quelle tecnicalità là, perché come saprete molto spesso spaccano tutto un asse locale di professionalità, di esperti, gli studi di architettura locali vengono spazzati via dall'arrivo del grande architetto di vaglia internazionale che gli pianta un missile, diciamo, sul territorio. Si parlava stamattina del campus Einaudi in cui io lavoro, è un esempio molto, molto interessante, ripeto, poi ognuno esteticamente dà il giudizio che gli pare del campus Einaudi, però intervento di Norman Foster e associati che compare e trasforma radicalmente un territorio che aveva una sua continuità architettonico-urbanistica con un palazzo che sembra un'astronave bianca molto, molto interessante, che però appunto spunta dal nulla e che di sicuro ha comunque tolto la possibilità che, insomma, molti architetti locali di dire la loro in termini di che tipo di trasformazione dello skyline torinese si poteva fare, e taccio le due grattacieli che sono stati costruiti, uno più, uno meno, in città. Però insomma è una città che punta tantissimo sull'estetica. E qui secondo me è il punto d'attacco più interessante con quello che si è detto stamattina. Cioè una città che ha bisogno regolarmente di giocare sulla nozione di bellezza, di bello, di cui il decoro e il contraltare degrado sono chiaramente i due elementi politici importanti. E quindi è una città che deve essere bella, e poi ci possiamo attaccare tutti gli aggettivi oppure tutte le declinazioni che già Wolf ha introdotto. Deve essere bella e quindi deve essere vivibile, possibilmente deve avere una serie di elementi che in questo momento culturalmente come cosmopoliti definiamo essere belli, e quindi chiaramente per essere vibrante, per essere eccitante, deve avere un'offerta di servizi che vadano in quella direzione là, e il cibo da questo punto di vista è assolutamente l'elemento culturale, l'elemento economico che definisce una città, come dire, la mette sulla mappa, anche perché banalmente è uno dei pochi elementi di patrimonio su cui in questo momento in Italia si sembra insomma, di poter galleggiare economicamente. Quindi quello chiaramente è un elemento fondamentale, quindi le città che continuano a concedere licenze, anche perché comunque l'Europa ci ha obbligato a farlo, ad attività economiche in quel settore là, che continuano a recuperare oneri, tasse, urbanizzazioni attraverso la concessione di Deor, perché da un lato ci sembra che rendano la città più bella, più interessante, più vibrante, dall'altro ci consentono di recuperare un po' di tassazione che il governo centrale ci ha tolto con i 1000 vincoli di bilancio, i 1000 blocchi. Quindi vuol dire una città abitata su se stessa che deve costantemente nutrire la bestia, sostanzialmente, che è la bellezza, che è il dover pompare l'immagine di se stessa. Chiaramente, mi avete capito, il branding urbano, le attività di marketing sono assolutamente fondamentali in questo meccanismo. Allora, l'obiezione che mi viene fatta spesso quando la metto su questo tema è ma allora vuoi la città brutta? Allora vuoi la città grigia? Allora ti piace il degrado, no? Come quel famoso slogan che avevo visto a Firenze un po' di anni fa, il degrado malgrada che si aggirava nella zona del mercato di San Lorenzo, che però con un anticipo incredibile, perché le foto che avevo fatto io erano di una decina di anni fa, catturava esattamente la dinamica di quello che stava accadendo. Quindi il degrado malgrada, e la domanda che ci dobbiamo porre è: quindi ci piace quel tipo di grigiore, quel tipo di bruttezza? Ovviamente la risposta è no, nel senso che nessuno di noi vuole tornare a città grigia, città degradata. Il problema è, come abbiamo visto questa mattina, ha raccontato molto bene Enrico, degrado, bruttezza, persone indecorose sono frutto di una costruzione politica, sociale colossale, ed è su quel frangente là che dobbiamo essere molto avvisati, molto intelligenti, non ho detto smart, molto intelligenti, dobbiamo essere in grado di costruire delle reazioni molto muscolari in cui ciò che è bello non lo decide necessariamente il magazine turistico che mette regolarmente le nostre piazze in copertina, ma ciò che è bello può essere tutto quello che noi man mano collettivamente definiamo in quanto tale. Ma quella è una frontiera veramente molto delicata, anche perché appunto, come avete capito, la reazione è allora tu vuoi il brutto, e bello, brutto, ci sembrano sempre delle categorie non politiche, post-politiche. Il depoliticizzare l'estetica, o comunque porre l'estetica come criterio normativo cui le città si dovrebbe conformare, diventa un problema politico sostanziale. Quindi come definire nuove forme di bello, di bellezza, che però non siano quelle che già abbiamo visto circolare in città. Mi avete raccontato questa mattina, poi mi sono fatto raccontare meglio durante il pranzo, la questione dei container in piazza. Chiudo con un aneddoto molto interessante, ma molto, molto significativo secondo me, su questa containerizzazione dell'esistente o dello spazio pubblico, perché di nuovo vi dice anche come in realtà quello che viene propagandato come bello, come esteticamente interessante, come innovativo, in realtà è un meccanismo seriale che troviamo in tutte le città, in tutte le stesse salse, ed è veramente drammatico, e quindi di bello, di autentico, veramente molto poco. Sempre nella Torino Nord, in via di grande trasformazione, c'è un'area vicino al cimitero monumentale che si chiama Scalo Vanchiglia, abbandonata da 40 anni in maniera di nuovo indecorosa. E di nuovo insisto, dobbiamo ragionare sulla genealogia dell'abbandono, cioè come è stato possibile che nessuna amministrazione sia presa cura degli spazi abbandonati prima. Quindi l'abbandono è un problema, ma ci si arriva all'abbandono, non è uno stato di natura che a un certo punto compare in città. Comunque, Scalo Vanchiglia, zona in cui ci sono molti interessi immobiliari, una variante del piano regolatore generale, la variante 200, che al momento è saltata, ma che attirava moltissimi interessi speculativi. Nella fase in cui si stava discutendo e si stava cercando di vendere in realtà sul mercato immobiliare pezzi della variante 200, un collettivo di artisti che agisce più o meno nell'area di Scalo Vanchiglia ha una trovata: perché non riusiamo temporaneamente questo spazio abbandonato facendo un'opera di arte pubblica, inserendo 3 container vuoti, dove poi facciamo la competizione internazionale, invitiamo 3 artisti di chiara fama, li infiliamo dentro il container, li obblighiamo a fare delle opere d'arte dentro il container per mostrare al mondo e alla città il legame critico tra logistica internazionale, global commodity chain, arte pubblica e abbandono. Che è molto interessante, che è molto, se volete, per dire anche molto bello, esteticamente molto bello, però di nuovo inserite l'intervento dei 3 container con gli artisti segregati dentro che devono fare l'intervento bello in un meccanismo più ampio in cui tutto attorno c'è una variante al piano regolatore generale, un tentativo di trasformare quell'area lì attraverso un intervento artistico che legittimi il fatto che un'area abbandonata può essere anche considerata un'area bella, per fare cosa poi dopo? Per fare stecche di condomini e poi probabilmente un centro commerciale. Variante 200 però fallisce, perché la città in realtà è in crisi nera e gli investitori internazionali comunque non sono completamente scemi, quindi non viene comprata, quindi al momento la cosa viene congelata. L'unica alternativa che il comune riesce a trovare, che è l'unica alternativa che il comune sta trovando negli ultimi 2 anni, cessione dell'area per recupero di oneri di urbanizzazione all'ennesimo supermercato. Quindi la fine della storia è un supermercato che cementa un pezzo dell'area abbandonata e sostituisce sostanzialmente il container. Allora, come giustamente mi faceva notare Wolf, insomma, alla fine comunque si finisce sempre sul cibo o comunque su quel tipo di offerta standardizzata. Quindi dei container, dell'arte, del bello, dovremmo cominciare ad avere una visione molto più critica, molto più preoccupata e anche molto più attiva politicamente, però cioè chiederci come contrastare quest'idea di quel tipo di bello con qualcos'altro di altrettanto bello. Grazie. Ok, vabbè, innanzitutto grazie anche da parte nostra, da parte di Social Log, agli organizzatori di questa 3 giorni, perché riteniamo che sia appunto un momento importante per mettere in campo simili iniziative. E lo riteniamo più che altro per il fatto che anche per quanto riguarda la nostra esperienza ci troviamo in una fase nuova, in una fase che arriva dopo la chiusura di un periodo che comunque è stato molto denso, sia di occupazioni che purtroppo anche di sgomberi in città. Scusa, non si sorprende un attimo, no? C'è tanta altra gente che vorrebbe entrare, se noi che abbiamo insieme ci spostiamo un po' tutti attaccati verso il muro, non è scoperto. Fermo, considerato ci sono ancora 2 sedie libere qua. 2 sedie qua. Quindi, proviamo. Chi presenta il progetto migliore, ci sono 2 sedie. No, ma io per anzianità. Più bello. No, vengono messe a bando. Essere la parte Paolo. Scritto Paolo. Perché ora c'è tanta gente, capito? Smuovi le masse quando cominciano. Incredibile. Ci possiamo anche fare un po' più di tutti i miei amici che ho pagato questi. Ora ti caricano. Potete anche venire più avanti, no? Se lo mettiamo, sì, in effetti. Fra un po' caricano. No, magari. Se arrivano altre 10 persone, caricano. Sì, alla fine c'è un problema. Sì, sì. Vabbè, provo a ricominciare a questo punto. Niente, dicevo, quindi siamo in una fase nuova e questa fase nuova deriva da quello che è secondo noi tutto un processo di trasformazione della città che necessariamente è responsabile sia della chiusura della fase precedente sia di quelle che sono le riflessioni che ci stiamo facendo su come ricominciare anche un percorso che appunto affronti il tema del diritto all'abitare ma che abbia anche la capacità di guardare oltre. Su questo, appunto, si diceva anche nell'introduzione, siamo di fronte a una Bologna che non riesce a sciogliere un nodo, o quantomeno inizia un momento della sua storia nella quale dovrà capire come sciogliere un nodo. E il nodo è quello tra rimanere, o quantomeno permanere da alcuni punti di vista, una città prettamente a vocazione studentesca, giovanile, e dall'altro lato invece essere compiutamente una città a vocazione turistica, come sembra di intravedere in questi ultimi 2 anni. Appunto c'è stata una trasformazione evidente che penso un po' tutti hanno potuto anche verificare sulla propria vita in questi ultimi 2 anni, e che di fatto però è una trasformazione che arriva da lontano, una trasformazione che arriva da quando Ryanair ha costruito la sua presenza in città in maniera molto più importante, ampliando il numero di voli, riuscendo a connettere in maniera molto maggiore l'aeroporto di Bologna con quelli che sono i flussi del turismo, dell'economia globale. Ci parla di quello che è il discorso delle grandi opere che sono state appunto poi anche tra aspre discussioni approvate riguardo la questione delle infrastrutture autostradali e quant'altro. Ci parla di quello che è il tema di FICO e di quell'investimento che è stato fatto per appunto creare la Disneyland del cibo al pilastro. Sono tutta una serie di innovazioni che di fatto poi si accoppiano a quello che è poi, come si diceva, l'esplosione di un fenomeno come quello di Airbnb sul piano cittadino, e che necessariamente appunto ha impattato in maniera decisiva su quelle che sono state le trasformazioni di questa città. Io cerco di fare un po' anche un discorso che non sia una conclusione, ma che sia un po' una volontà di mettere a dibattito, a verifica, alcune indicazioni, alcuni discorsi che ci stiamo facendo. Parto da un aneddoto. Al nostro sportello di ascolto, per chi ha problemi sul discorso abitativo, all'inizio di quest'anno politico, a agosto-settembre, diciamo, iniziavano ad arrivare, a differenza di quelle che erano le classiche tipologie di soggetti che venivano al nostro sportello, quindi principalmente lavoratori migranti, tutta una serie, da un lato di studenti, da un lato di precari, che ci ponevano di fronte la necessità del fatto che il mercato abitativo, per quanto riguardava appunto la questione studentesca universitaria, era diventato di fatto assolutamente fuori dalle possibilità di queste persone. E in quel momento ci siamo anche un attimo resi conto del fatto che per la prima volta appunto quello che era un classico problema che riguardava appunto le fasce più povere della popolazione, in questo momento diventava anche numericamente esteso anche a chi appunto di solito non aveva sostanzialmente problemi a trovare una casa, per quanto poi negli ultimi anni già si vedeva come i prezzi degli affitti erano saliti. Questo ci poneva di fronte a la capacità di capire come appunto poi provare anche un po' a ridefinire il nostro intervento su questa nuova tipologia di soggetto politico potenziale che poteva appunto costruire mobilitazione con noi. Secondo aneddoto, l'altro giorno andiamo alla Barca, diciamo agli uffici del comune, dell'assistente sociale del comune, per capire la situazione di una famiglia riguardo a uno sfratto che sarebbe dovuto tenersi di lì una settimana. E di fatto l'assistente sociale, la risposta che ci ha dato nel momento in cui noi premevamo per trovare una soluzione prima che lo sfratto avvenisse, è stata di fatto quella di dire che da quando erano state sgomberate le occupazioni di Social Log, quindi l'ex Telecom, quindi Via De Maria, quindi Via Galliera e quant'altro, di fatto l'emergenza casa era esplosa in maniera devastante, perché contemporaneamente la mancanza di qualunque tipo di risorsa messa dal comune per costruire nuove case, nuovi progetti di edilizia popolare o quantomeno di mettere a disposizione nuovi alloggi era di fatto inesistente. Quindi quello che era successo è che si è creato tutto un sistema per il quale le case di transizione piuttosto che gli alloggi ACER, quindi le case popolari, erano completamente piene. Gli sgombri di Via Gandusio e del Galaxy degli ultimi mesi hanno ulteriormente aggravato questo problema. Quindi, qual è il discorso? Ci troviamo di fronte, secondo noi, a un ragionamento che intacca il tema anche, diciamo, delle risorse, del discorso di che direzione sta prendendo la città. E qui viene il discorso, diciamo, del turismo, il discorso del city branding, il discorso delle forme di valorizzazione che si stanno dando. Nel momento in cui, appunto, c'è questo aumentare fortissimo di turistificazione della città, si crea un meccanismo per il quale, appunto, la disponibilità di case, di alloggi anche sul mercato privato è di fatto completamente andata a disposizione di Airbnb, a disposizione di Booking, a disposizione di tutti quelli che sono le piattaforme di alloggio di affitto breve, e si sono levate da invece la disponibilità di quelle che potevano essere locazioni di lungo periodo per studenti, per precari, piuttosto che per lavoratori prettamente migranti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che di fatto la città sta decidendo di prendere una sua posizione, sta decidendo di, attraverso le sue istituzioni, attraverso la sua amministrazione, di cercare di cambiare il volto a quello che è il tessuto cittadino, attraverso delle pratiche che sono sempre più di espulsione nei confronti dei soggetti che di fatto hanno meno possibilità di accedere a un mercato immobiliare e a un certo tipo di vissuto all'interno dei centri storici rispetto invece a quelle che possono essere categorie in formazione, come appunto quello dello studente ricco, piuttosto che altre categorie magari di privilegiati, come appunto quelli che hanno a disposizione la proprietà di una casa all'interno della città, che sono tra l'altro sempre molto pochi, dato che Bologna, come tutti sappiamo, è una città in cui è fondamentalmente piena soprattutto di fuorisede, che ovviamente quindi non è che hanno la disponibilità di una casa. E questo ci pone di fronte anche a dei discorsi innovativi dal punto di vista pure della descrizione, della mappatura dei conflitti che possiamo fare. Per esempio, quali sono le possibili convergenze che si possono dare tra appunto uno studente in lotta magari per ottenere maggiori finanziamenti per quanto riguarda per esempio le istituzioni, nuovi studentati o per affitti calmirati, con un lavoratore migrante appunto sempre più vittima di espulsione da parte delle istituzioni, del meccanismo costruito di Airbnb sia dal centro ma soprattutto anche dalle prime periferie di Bologna. Quindi quali possono essere anche un po' le convergenze tra questi due soggetti sociali che necessariamente in questo caso non vanno più o non possono più essere presi come elementi separati, ma che sempre in più invece vanno considerati come parte di un unico discorso. In più c'è da situare questo ambito, e questo è un altro elemento che per noi è abbastanza dirimente, sul piano pure degli effetti materiali della crisi, perché un ragionamento che ci siamo anche fatti è quello di provare anche a mettere in crisi il modello Airbnb, analizzando quello che è appunto anche il meccanismo di speculazione che c'è dietro, quanti sono per esempio i grandi speculatori palazzinari bolognesi che affittano decine e decine di case su Airbnb, e su quello provare a immaginarci dei percorsi di lotta, dei percorsi eventualmente anche di riappropriazione che attacchino direttamente questo nodo. C'è dall'altro lato però il problema, e che va considerato, che lo stesso modello Airbnb, soprattutto anche per gli stessi studenti universitari che ne sono in teoria i principali soggetti penalizzati, si è rivelato negli ultimi anno e mezzo, due anni, anche uno straordinario meccanismo per eliminare ulteriore perdita di potere d'acquisto e di vissuto nelle città, perché moltissimi studenti universitari in affitto, ad esempio subaffittano tramite Airbnb, riescono a costruirsi un reddito tramite Airbnb, e questa cosa porta al fatto che evidentemente anche andare ad attaccare questa dinamica in termini di messa a fuoco di un potenziale conflitto su questo tema è molto pericolosa, perché appunto diventa anche un meccanismo per il quale vai a attaccare potenzialmente una fonte di reddito che molti utilizzano anche per sopravvivere all'interno di una condizione materiale di vita molto molto molto anche difficile. Quindi appunto c'è questo nodo da tenere in considerazione: fare la lotta contro Airbnb, fare la lotta contro la città della gentrification e dell'espulsione vuol dire anche riuscire da un lato a immaginarsi convergenze tra soggetti espulsi, dall'altro però significa anche rendersi conto che tutta una serie appunto di welfare indiretto e di lavoretti, che non sono soltanto per esempio ambiti che riguardano la casa, basta pensare a tutta la dinamica dei rider, dei portapizze, quanto per esempio anche questi in una città che appunto diventa sempre più piattaforma sono da un lato gli sfruttati, perché appunto sono quelli che collegano i flussi dell'economia, ma dall'altro sono anche quei lavoretti che magari permettono di riuscire a svoltarla in qualche modo, e anche su questo veramente dobbiamo fare attenzione. Inoltre altri temi che ci sembrano abbastanza dirimenti: la questione per esempio dell'estetica, del branding, della questione di come si ristruttura anche un po' la città in termini di produzione di discorso. Ad esempio, noi, senso, Social Log comunque è un collettivo che deriva anche un po' da quello che è il percorso del laboratorio Crash. Nello scorso anno e mezzo fa, c'è stata tutta la questione dei murales che riguarda sia XM sia Crash, appunto dei murales fatti da Blu, che dovevano essere recuperati all'interno di quella famosa mostra sulla street art che è stata fatta da Roversi Monaco, che appunto è anche su quel piano lì. È evidente che tra virgolette poi questo discorso, anche il discorso che si faceva adesso, va misurato nei termini per il quale anche un certo tipo di costruzione alternativa, anche un certo tipo di costruzione di arte dal basso, quantomeno di nuove forme di cultura all'interno della città, poi sono immediatamente subito recuperabili, sono subito sfruttabili da quelli che sono i tentativi di costruire una nuova immagine della città, che sembra anche quasi quella che valorizza le esperienze di lotta che sorgono al suo interno, quando invece in realtà quello che cerca di fare è o di reprimerle in maniera molto forte oppure di svuotarle di senso. Quindi su questo ad esempio anche l'esperienza dell'ex Telecom, per quanto ci riguarda, è un caso paradigmatico di questo doppio atteggiamento da parte delle istituzioni, perché l'ex Telecom da anche molte dimensioni istituzionali in passato qua e là era anche stata descritta come un'esperienza positiva nel quartiere, un qualcosa che meritava di essere comunque riconosciuta nei termini dunque del contributo che portava, però dall'altro lato nel momento in cui si dimostrava un luogo nel quale anche delle forme di vita alternative potevano nascere, un qualcosa dal quale poi poteva partire un discorso ben più ampio, immediatamente è arrivato l'attacco politico, ed è arrivato non a caso nel momento in cui sul quartiere della Bolognina si stava avviando tutta una serie di processi di gentrificazione, di messa a valore di quelle che erano le potenzialità del quartiere, che poi sono quelle racchiuse nel fatto che appunto al posto dell'ex Telecom vogliono costruire questo, o stanno costruendo questo, questo hotel per studenti ricchi, che poi di fatto staremo anche a vedere se funzionerà, perché poi anche su questo tema qua le politiche di sostituzione di una popolazione all'interno di un quartiere non sono sempre, diciamo, automaticamente, cioè non riescono sempre in maniera quasi automatica. Basti pensare appunto alla questione di Piazza Verdi, che si diceva anche questa mattina, come in realtà sì, probabilmente quell'approccio lì dei container ha funzionato in maniera migliore rispetto ad altre strategie, ma allo stesso tempo non si può dire in alcun modo che quella questione, quel modo di risolvere la problematica sia stata poi invece capace di riuscire a costruire appunto una popolazione alternativa che attraversava quei luoghi, perché poi di fatto Via del Guasto era attraversata anche molto poco, soltanto in alcuni momenti, e non è che la dimensione generale della piazza sia poi cambiata. Quindi insomma c'è tutto questo tentativo di ridescrivere l'urbano, la città, questo tentativo di cercare di ricreare un nuovo tipo di branding attraverso appunto una politica di sostituzione della popolazione, cercando di spostare appunto le fasce più povere magari nella seconda fascia di periferia della città, quindi anche oltre la Bolognina, però allo stesso tempo ci troviamo di fronte al fatto che non sono neanche stanziati i fondi per rendere possibile tutto questo. Siamo di fronte al fatto che invece quello che siamo di fronte è una totale, sempre maggiore impoverimento sociale, e sempre più anche una dinamica per la quale, per esempio, e qui torno per chiudere sul discorso della casa, non solo stanno venendo tolte le case a studenti o lavoratori migranti, ma stanno anche sempre di più venendo non rinnovati tutti i contratti, i famosi 4+4, che una volta che per finita locazione non vengono rinnovati vanno sul mercato di Airbnb e portano al fatto che verranno sempre di più espulsi non soltanto appunto fasce, diciamo, più precarie della popolazione, ma anche magari famiglie, anche magari tutti quella parte di popolazione che vive all'interno del centro storico, della prima periferia, e che di fatto non è comunque ancora profittevole quanto può esserlo invece Airbnb, e quanto può essere Booking rispetto appunto ai profitti dei grandi proprietari. Quindi, per chiudere, Bologna in questo momento è, dal nostro punto di vista, invasa da un tentativo di turistification sempre più massiccio, che però si scontra con due tematiche. Uno, la necessità di riuscire allo stesso tempo a conservare pure un discorso sull'università capace di poi mettere a profitto quelle che sono le centinaia di migliaia di studenti che vengono a studiare qui, e che però in questo momento qui è sempre più, diciamo, è difficile per il fatto che appunto il centro si svuota, e quindi anche tutto un certo tipo di attrattività della città viene meno, e dall'altro invece è quello di capire se tutto questo discorso non possa risolversi anche in una gigantesca bolla, perché comunque i flussi del turismo, i flussi dell'economia turistica sono comunque anche molto spesso caratterizzati da un'alta volatilità. Città che magari per un 3 o 4 anni, 5 anni riescono a costruire un certo tipo di immagine, poi magari vengono soppiantati dal fatto che alcuni investimenti da parte del capitalismo finanziario magari vanno a privilegiare un'altra meta, e quindi automaticamente si sposta in maniera forte anche la ricchezza che arriva sulla città. Quindi anche su questo bisognerà capire se Bologna è una città che prenderà in maniera compiuta una dimensione prettamente turistica, o se piuttosto non siamo di fronte a una bolla di qualche anno che però ha l'effetto di distribuire sempre maggiormente la ricchezza verso i pochi che già ne hanno tanta, e di toglierla invece a chi di fatto già è messo in condizioni difficili. Grazie. Secco? Vabbè. Davide Loro. Sì, no, era per dire. Sì, grazie a Michele per questa sponda che mi ha dato sul turismo e sul carattere di volatilità del turismo, perché era proprio il calcio che cercavo per arrivare a parlare di come in realtà il turismo, Bologna non sia Venezia, e quindi non ci troviamo di fronte a flussi turistici così imponenti da doverne analizzare gli effetti sull'urbano in prima battuta, diciamo. È più suggestivo guardare al turismo all'interno della costruzione dell'immaginario di cui parlava Giovanni. e anche in funzione di quell'alimentarsi di se stessa della città, che a Bologna appunto raggiunge il suo massimo, visto che l'alimentarsi di se stessa è sulla base appunto del cibo. Una Bologna città del cibo che in realtà nasce da quel processo di brandizzazione della città. Brandizzazione significa costruire il brand, quello che è già stato fatto a Barcellona e che l'ha trasformata in Barcellona, motivo per cui tutti ci siamo stati e non siamo stati piuttosto a Saragozza. Il processo di brandizzazione della città del cibo sta dentro a un conflitto con un'altra città emiliana, che è Parma, che diventa la città della gastronomia, City of Gastronomy, mentre Bologna diventa la città del cibo, anche perché non era perfettamente chiaro per quale motivo la mortadella fosse meglio del prosciutto di Parma o il lambrusco meno peggio del parmigiano. E quindi non c'era in realtà un motivo per cui Bologna era effettivamente la città del cibo, sarebbe dovuta essere la città del cibo, e sta dentro quel discorso sull'eticare gli immaginari, la costruzione di un'identità in realtà fittizia. Da questa strategia appunto di Bologna città del cibo, che in realtà viene disegnata da alcuni attori principali, che sono appunto il comune e la città metropolitana al centro, e con Bologna Welcome alcune fondazioni, e Bologna Welcome, che è la partecipata che si occupa di turismo, e il CAB, che era una partecipata del comune, che il comune riesce, inaugurato nel 2000, che è il centro agroalimentare, che riesce praticamente arrivare al fallimento in 15 anni, dopo appunto la sua inaugurazione, partecipa anche l'Università di Bologna. Tutto era un processo che si chiamava appunto Expo, e che era il processo di accompagnamento della città metropolitana di Bologna al progetto nazionale del Partito Democratico su Milano, che era quello dell'Expo, no? Quindi una cosa simile, diciamo, in salsa emiliana. Tutto quello che rimane di Expo in realtà è una pagina internet in costruzione a distanza di appunto 8 anni, ma quello che preme sottolineare di quanto le eccellenti che hanno partecipato a Expo siano riuscite a partorire sono due punti strategici del lunghissimo elenco di buone intenzioni che avevano immaginato, e appunto ve li leggo direttamente: erano FICO, Italy World, il primo parco agroalimentare, e il tema dei mercati urbani e dei mercati interni alla città. Sono due strategie, diciamo, che viste a posteriori, col senno di poi, sembrano antitetiche. Da una parte c'è una proiezione della città verso l'esterno, una proiezione della città immaginata appunto in chiave dove FICO raggiunge la sua massima espressione, quindi una città delocalizzata, dove appunto il turismo è spinto verso appunto oltre il pilastro, oltre i confini di quello che era la città fino ad allora messa a profitto, e dall'altra invece, al contrario, una strategia rivolta con lo stesso attribuzione di senso, quella appunto della strategia del cibo, all'interno, sui mercati. I mercati di Bologna, i mercati rionali. È molto interessante, avevo delle slide ma ho sbagliato a pensarle. Però prometto che saranno caricate sul sito a posteriori, li troverete sui materiali. Il Comune di Bologna, attraverso l'Urban Center, commissiona a dei sociologi, perché esistono anche quelli cattivi, soprattutto quelli cattivi, commissiona un lavoro sulle potenzialità dei mercati rionali della città di Bologna. E c'è un bellissimo grafico che appunto viene pubblicato con tanto di faccette, smile che ridono e smile che piangono a seconda delle potenzialità del mercato. Michele lo può vedere. E individuano 3 mercati con altissime potenzialità. Non vengono studiate le potenzialità sulla base appunto dei flussi di mercato, di quanta gente va a comprare al mercato a fare la spesa, della distanza degli altri servizi, della vicinanza dei supermercati o meno, eccetera, eccetera. No, vengono piuttosto studiate l'accessibilità, quindi la vicinanza alla viabilità, la centralità nella città, vengono studiate altre variabili. I tre mercati con il più alto punteggio diciamo sono quello di Via Albani, il mercato delle erbe, il mercato San Donato e il mercato di Mezzo. Se ci pensate, nell'arco di pochi anni vengono tutti interessati dai processi di riqualificazione. Riqualificazione appunto che significa un cambiamento di segno, perché la maggior parte dei casi, se non tutti, con vari gradi di sfumature, vengono riqualificati ma anche risignificati, cioè diventano altre cose, cioè non sono più i mercati appunto dell'agroalimentare, dove si rifornivano i piccoli commercianti che andavano a comprare al CAB, ma si trasformano, come sapete bene, il mercato di Mezzo nella Hall of Food, grazie alla rigenerazione principalmente finanziata dalla Coop e da Italy, che lo stesso Corriere della Sera titola "Rilancio riuscito del vecchio mercato coperto o supermercato per turisti", quindi non siamo noi a dirlo. Il mercato San Donato, che è diventato il mercato sonato grazie appunto a un bando incredibile, manco a dirlo, incredibile sarebbe se fosse stato diversamente, che c'entra l'Unipol, in combutta in questo caso con l'Arci Bologna, che partecipa al bando e appunto studia il rilancio di questo mercato attraverso questa rifunzionalizzazione che la trasforma nell'ennesimo locale con tessera, per carità, di Bologna, dove l'ultimo punto vendita ha chiuso a dicembre 2017, quando invece nei progetti c'era la concomitanza dei due usi, no? La possibile interazione tra l'utilizzo appunto in forma di mercato la mattina e in forma di locale notturno la sera, e naturalmente senza nessuna strategia di accompagnamento della prima attività soccombe l'ultimo rivenditore, l'ultima macelleria a dicembre 2017 ed adesso si trasforma in quello che è, cioè un locale. E l'altro su cui mi piacerebbe soffermarmi, visto che quello di Via Albani il processo è ancora lungo, visto che sono state aperte alcune rivendite di vino, enoteche e cose simili, ma non si può parlare di completa trasformazione. Il processo sulla Bolognina secondo me è ancora complesso e lungo, visto che insomma, nonostante i copiosi investimenti fatti sul quartiere, a partire dall'alta velocità, a partire da altre forme di investimenti, stanno comunque cominciando a scontrarsi con la realtà appunto di una crisi economica. Per esempio il progetto sulle officine Minganti e la loro trasformazione patrocinata dalla Coop è arrivata a conclusione, visto che il 4 marzo, in occasione delle elezioni, chiuderà anche il supermercato della Coop in Bolognina. Appunto quello dell'officina Minganti. Per questo mi soffermo sulla strategia dei mercati dentro le mura. Il mercato delle erbe, voi tutti lo conoscete, purtroppo sarà toccato anche a voi farvi un aperitivo da quelle parti, se non si è riusciti a resistere. È un progetto di cui va fiero soprattutto l'assessore all'immaginazione civica Matteo Lepore, appunto. Ritorniamo sul lavorare sull'immagine e sull'immaginazione, inevitabilmente. Il progetto del mercato delle erbe assomiglia in tutto e per tutto a un processo classico di gentrificazione commerciale. La gentrificazione commerciale, mi permetto, lo dovrebbe dire Giovanni, ma mi lancio in questa cosa. La gentrificazione commerciale assomiglia alla gentrificazione in tutto e per tutto, ma riguarda soprattutto, se la gentrificazione classica riguarda il tema della casa, appunto, quindi la proprietà, la prima a introdurre il termine root glass, è una sociologa inglese che appunto parla della sostituzione della classe operaia di un quartiere ad opera della middle class. In questo caso si parla più recentemente nella letteratura sociologica di gentrificazione commerciale rispetto alla omogenizzazione dell'offerta commerciale in un'area, no? E quindi il mercato delle erbe rappresenta un caso paradigmatico in questo senso, perché nella letteratura esistono i pionieri, cioè quelli che arrivano per primi quando la zona ancora non è adatta agli investimenti. In questo caso mi ricordo di un articolo del redattore sociale quando apriva il bar senza nome, che appunto veniva spinto sui giornali anche dalla Repubblica eccetera, che diceva appunto: ma si sono poi scontrati con la realtà della strada, dove sono frequenti episodi di microcriminalità eccetera. Con un presidio fatto di cultura siamo riusciti a trovare un compromesso che riqualificasse la zona, e adesso siamo noi del quartiere a essere grati al senza nome. E dopo i pionieri segue un processo classico di partecipazione, uno di quelli a cui poi dopo ci hanno abituati, che dura in realtà un paio di riunioni con 15 condomini, ma di quel processo nuovamente il risultato è un sito a 8 anni di distanza in costruzione, www.mercadoerbe.eu, lo potete cercare. E quello che più mi sembra interessante è legarlo ai fenomeni appunto che riguardano il centro storico, cioè anche il centro storico di Bologna, come gli altri centri storici italiani, è caratterizzato principalmente da tre trend che lo caratterizzano, lo determinano nella sua conformazione. Il primo è quello della diminuzione dei residenti, il secondo è quello dell'airbnbizzazione e il terzo è quello della commercializzazione. E anche a Bologna appunto ogni anno dalle 400 alle 800 persone lasciano il centro storico verso altri quartieri, solitamente sono quelli più periferici tipo San Lazzaro e l'area di Borgo Panigale Reno. Il processo di airbnbizzazione, avevo delle slide bellissime, è andata così. A Bologna tra il 2016 e il 2017 segna un più 150%, e quello appunto su cui mi sarebbe efficace fare un'altra tre giorni solo contro Airbnb, ma forse magari è proprio il carattere di cui parlava Michele, cioè il fatto che alcuni detengono la maggior parte del patrimonio. Io appunto avevo fatto questi grafici dove veniva evidenziato che la maggior parte, quasi tre quarti dell'intero dell'offerta su Airbnb riguardano interi appartamenti, quindi gente che sostanzialmente non ci vive, anche per smontare la retorica sul fatto che ci sia una parte sicuramente considerevole di studenti che ne ricavano un reddito residuale, ma la maggior parte del capitale è in poche mani. E come appunto sottolineava anche una ricerca dell'Istat sul tema Airbnb, il viaggiatore medio di Airbnb spende il 38% del proprio budget presso imprese locali del quartiere nei quali soggiorna. Quindi c'è un vincolo assolutamente tra il turismo Airbnb e i processi di trasformazione urbana in senso di gentrificazione commerciale. Gli ospiti di Airbnb durante la loro visita spendono in media 738 euro in ristoranti e bar. Gli ospiti di Airbnb hanno consumato quasi 13 milioni di cene in Italia. Se andate a guardare la mappa degli Airbnb a Bologna, che vi dico giusto così, giusto per dire, superano i 7.000 appartamenti, superano le 7.000 offerte al giorno solo su Bologna. E la maggior parte è concentrata proprio nel quadrante tra il mercato di mezzo e il mercato delle erbe, e raggiungono tassi di appunto 22.000 euro a notte, non per singolo appartamento ma per quadrante di censimento, cioè ogni quadrante di censimento centrale di Bologna produce di rendita netta al giorno 23.000 euro di Airbnb. E questo ha un seguito sul processo appunto di commercializzazione, omogenizzazione dei commerci. A Bologna c'è un ristorante ogni 37 abitanti, a Bologna Centro, con un aumento del 47% nell'ultimo anno. un aumento dell'83% dei takeaway, un più 41% delle gelaterie e un aumento dei mini market da 300 a 500 solo in un anno. E questi fenomeni incidono naturalmente, poi hanno conseguenze su quello che significa il quartiere, con conseguenze appunto anche sull'abitare. Inevitabilmente chi abita in questi quartieri con un alto tasso di omogeneità, di omogeneizzazione dell'offerta commerciale, vive anche le conseguenze di stare in un quartiere che si è trasformato in un grande dehors a cielo aperto. Del resto anche l'assessore alla cultura di Bologna lamentava prima di essere dimessa prima di essere dimessa, lamentava appunto la trasformazione di Bologna nella città dei taglieri, e c'è qualcuno insomma che sopra quei taglieri è costretto a viverci e sconta anche gli effetti, le esternalità negative di quelli che sono questi tipi di flussi. Abbiamo avuto possibilità di fare in università un piccolo laboratorio con gli studenti e analizzando appunto la provenienza degli avventori dei bar, era evidente come naturalmente l'immagine fosse veicolata dal turismo, l'immagine di rilancio e la centralità del luogo e quella frizzantezza, quella vibrazione, il mood del luogo era sicuramente dato anche dalla componente turistica, ma come in realtà fosse una continua utilizzazione del luogo da parte di users interni, cioè erano gli altri bolognesi della città o non bolognesi che andavano, si riversavano in alcune ore, in alcuni giorni in quell'area, con tutti gli effetti negativi che riguardavano appunto le esternalità negative di stare in 5.000 a farsi uno spritz sullo stesso marciapiede. E di tutto questo chi ne andava molto fiero era Matteo Lepore, che scriveva sul suo blog: salute, educazione, impresa, branding, innovazione, creatività, sito food e tutto questo e molto di più, alla scoperta delle radici del vero Made in Italy tra umanesimo e artigianato. La città del cibo non sarà solo fabbrica italiana contadina, aggiungiamo noi, sarà anche molto peggio. Quindi io non provo neppure a tirare in alcun modo delle provvisorie conclusioni da questo primo giro. Mi sembra che sia emerso in maniera, sì, in realtà era una premessa retorica, poi in realtà la faccio, però brevissime, è emerso in maniera straordinaria proprio questo impasto, a cui aggiungerei due o tre dati che forse ha accennato Davide, però gli appesantirei questo aspetto, cioè del ruolo del pubblico, del ruolo del settore pubblico in questo continuo trasferimento di valore che serve a fare circolare questa economia fondata su turismo e food. Penso per esempio al mercato di mezzo che ha nominato Davide, che essenzialmente è quel luogo dove aveva aperto un Italy e poi rapidamente chiuso perché era un po' troppo ambizioso avere due Italy uno di fianco all'altro. Farinetti peraltro aveva anche sognato di fare un ponte, insomma, a distanza di, per il viottolo è di 5 metri, quindi Farinetti aveva sognato di fare un ponte tra l'ambasciatori, il luogo peraltro che è quello di ex proprietà pubblica, e il mercato di mezzo, e subito, sarà stato il 2012-2011, e il comune aveva subito detto: beh dai, studiamo le possibilità tecniche e i vincoli urbanistici, se possiamo farlo. Però ecco, per esempio il mercato di mezzo è un edificio che almeno nel momento in cui è nato come mercato di mezzo era di proprietà della USL, che non sapeva più che farne, non sapeva più come arrivarci a rimetterlo in sesto per poterlo utilizzare per delle interessanti finalità sanitarie, che sarebbero quelle piccole banalità di cui si occupa la USL, e l'ha ceduto quindi per un affitto quarantennale, una roba di questo tipo, a Italy e al gruppo di Coop, in cui c'era anche Italy in quel momento, per farci mercato di mezzo. Oppure l'insopportabile Cool Lab, che sarebbero le scuderie di Piazza Verdi, ex mensa universitaria, già evocata stamattina, forse anche perché vivo con una certa nostalgia i tempi in cui ci andavo a mangiare da studente, sono di proprietà dell'azienda regionale del ritorno studio, che lo cede in cambio della riduzione dei prezzi del caffè e di un affitto che sicuramente consente di fare ampi profitti, per farlo diventare il luogo in cui si impara a mangiare, si sta insieme e si esibiscono anche, come avevo notato qualche mese fa, delle simpatiche citazioni di un signore lievemente antisemita che si chiama Henry Ford, con questo curioso effetto per cui le frasi di un antisemita scritte sui muri di un luogo pubblico dato nel privato sono molto cool, mentre le scritte dei compagni che denunciavano questo processo sono l'orrore e il degrado. Questo potrei andare avanti all'infinito, Fico non ve la meno, parliamo di un giocattolino da 55 milioni di euro che appunto è stato costruito e è diventato l'abbandono. Quello, diciamo, è il paradigma di ciò che accennava Giovanni dicendo come si è arrivati a questo abbandono, ma in quel caso, per esempio, immaginando un oggetto enorme nello stesso momento in cui si davano licenze a non finire per i grandi supermercati che non si riforniscono a quel tipo di mercato ortofrutticolo e quindi rendendo di fatto inutile le norme. Non c'è stata una riflessione, che non sia stata appunto quella da ambienti di movimento e compagni vari, su perché si è arrivato tutto ciò, su quali siano le responsabilità politiche, che sono evidentemente le stesse dello stesso partito di oggi. Ecco, quindi mi sembra che il tema ci sia tutto, sarebbe interessante, da butto lì, poi sia per il dibattito che per gli ospiti, vedere un po' come oltre a tutto questo, queste risorse pubbliche entrino anche probabilmente degli attori finanziari significativi, forse ecco questo è un elemento di analisi che se ce l'abbiamo possiamo citarlo, se invece non ce l'abbiamo ancora è una cosa su cui lavorare, perché appunto la fase iniziale uso di nuovo questo brutto termine, resilienza alla gentrificazione dovuta alla struttura proprietaria, all'assetto proprietario frazionato della proprietà immobiliare italiana, è superata anche perché di nuovo uno stock significativo di edilizia pubblica viene in qualche modo messo sul mercato e viene messa quindi a disposizione finalmente per poterla farla partire, sto cazzo gentrification, che no, come faceva a partire. Ecco, se volete aggiungere qualcosa al secondo giro, altrimenti domande. Domande, interventi. Io volevo aggiungere due cose su due elementi che venivano citati negli ultimi interventi. Uno appunto il ruolo del pubblico nella promozione dell'industria del turismo, e l'altro un piccolo ritorno sulla questione di Airbnb. Perché in realtà oltre ai singoli casi che citavi rispetto a Bologna, che insomma io non conosco bene, vivo a Roma e Venezia, quindi non ho bene idea, però ci sono degli indirizzi generali, ad esempio quelli forniti da Cassa Depositi e Prestiti e dagli studi di settore di Cassa Depositi e Prestiti, che indicano nello sviluppo dell'industria turistica l'elemento centrale della sua attività finanziaria, del suo piano industriale per il rilancio dell'economia del paese. Quindi se è vero che diciamo Bologna non è Venezia e l'industria turistica italiana si basa su alcuni asset molto diciamo ben definiti, che è il turisdotto Venezia, Firenze, Roma, è anche vero che però sempre più le linee di indirizzo dell'amministrazione pubblica e del braccio finanziario delle amministrazioni pubbliche, che è Cassa Depositi e Prestiti, andranno nella direzione di utilizzare il patrimonio in disponibilità diretta di CDP per riconversione e valorizzazione in senso turistico, quindi dalle semplici catene di grandi alberghi al tema dello student hotel. A Roma stanno facendo un'operazione simile a partire da Ex Dogana, quindi prima con un classico caso di gentrification e poi in prospettiva la realizzazione dello student hotel nella zona di San Lorenzo. Sia con il fatto che CDP ha prestato degli strumenti finanziari per fare investimento, quindi non solo a partire dal suo patrimonio diretto, ma per fare direttamente investimenti, presentando un fondo di investimento da per il momento 100 milioni di euro, in cui però si aspettano di raccogliere diciamo investimenti per 1 miliardo di euro da immettere all'interno del mercato, turistico. Quindi probabilmente in modo diverso rispetto alla natura differente del branding che investe in differenti luoghi, questo fenomeno sarà sempre in qualche modo più, più centrale nel, nel porsi il problema del, insomma, di chi governa le città e di chi sfrutta le città. Avverrà probabilmente rispetto al cibo in, in questo contesto, ma rispetto, che ne so, a Napoli o a Genova, dove abbiamo centri storici tradizionalmente popolari, un tema di turistificazione più classico si porrà, e quindi penso che sarà una, un elemento abbastanza importante per i movimenti da affrontare in maniera complessiva. La seconda cosa, molto breve, su, su Airbnb, appunto come veniva detto, c'è questa ambivalenza di Airbnb, no? Da una parte strumento di una certa fascia sociale impoverita per aiutarsi a sopravvivere, e dall'altra però elemento di concentrazione della ricchezza. E su questo penso che sarebbe interessante prendere esempio un po' dagli esperimenti che hanno fatto a Barcellona, non tanto solo, diciamo, la Giunta Colau con i vari, insomma, giudizi che si possono dare sulla Giunta Colau, che ha provato a porre dei limiti su, diciamo, pressione dei movimenti di base, ma proprio dalle pratiche dei movimenti di base. Cioè loro sono stati in grado di operare nel discorso pubblico cittadino una scissione tra chi appunto faceva multilisting, aveva concentrazione di proprietà immobiliare, chi invece lo utilizzava in quell'altra forma, e hanno prodotto elementi di azione, di riappropriazione, di occupazione di Airbnb estremamente interessanti. E penso che anche quello sia una cosa da, da iniziare in Italia a mettere in campo, anche per dividere il campo, non dire pro o contro Airbnb, ma contro la dinamica che passa per sharing, ma che in realtà nasconde degli elementi di forte concentrazione della ricchezza e del potere. Sono queste due cose. Facciamo un giro, tre alla volta, insomma. Salve a tutti e a tutte. Io volevo collegarmi a quello che stava dicendo lui, mi ha preceduto, per proprio le cose che si possono fare per stigmatizzare questi proprietari o questi gruppi che posseggono un patrimonio immobiliare e poi lo utilizzano in Airbnb. Cosa potremmo fare? A me interessa molto come tu hai raccolto questi dati, se c'è la possibilità di raccoglierne di più e capire chi sono questi proprietari e se c'è la possibilità di andare a fare uno scratch sotto casa, per esempio. Ah, scusate, ho dimenticato una cosa, giusto perché si parla di soldi, da qualche parte c'è un barattolino, l'iniziativa è autogestita, autofinanziata, un barattolino in cui ci sta anche un euro, 50 centesimi, che vi capita quando, quando uscite, però dovrebbe esserci barattolino, quindi spero il compagno, ecco, compagno evidenziato. Ciao a tutti, scusate se intervengo anche in questo incontro. Abbiamo organizzato questi tre giorni perché avevamo voglia di parlare. Dunque, io non voglio entrare nello specifico delle questioni affrontate, un po' perché sono stati messi sul piatto molti dati, un po' perché per chi sta a Bologna sa che io faccio parte di un collettivo che si chiama Iderice, penso che negli ultimi 3-4 anni, insieme anche grazie ai testi, agli articoli prodotti da Wolf, abbiamo scritto decine di comunicati, lanci di presidi, iniziative su mercati che si riqualificavano, città del cibo, città dei taglieri, quindi non torno su robe che sento un po' masticate per quanto mi riguarda, ma sono sicuramente da affrontare. Provo invece a partire da quanto diceva Giovanni sulla dimensione estetica centrale della riqualificazione nella riscrittura delle città. Io credo che sia una roba che io personalmente non avevo mai pensato, un po' perché soggettivamente magari non ho l'attenzione di guardare questi processi con quella luce, un po' perché probabilmente anche il brutto è una roba che non mi dispiace, no? Penso a XM24, uno spazio che rivendico con tutto il cuore, che è per me il centro sociale più brutto che c'è in Italia, assolutamente, esteticamente lo è, c'è nulla da fare, e ce lo rivendichiamo secondo me con tanta gioia. Quello che invece ho sempre pensato, e su cui sto scrivendo anche la tesi di laurea, è sulla dimensione invece più etica della riqualificazione, no? Cioè sul concetto di buono, di giusto e di sano. Quindi io penso che tanti dei processi di gentrificazione e riqualificazione urbana che si sono dati nelle nostre città non sarebbero stati possibili senza che prima una forte retorica del green capitalism, no? dello sviluppo sostenibile, di un modo di produzione tra virgolette buono, verde, giusto e pulito, avessero costruito una narrazione di base su cui poi è stato facile mettere piani economici specifici e situati. Però quella grande narrazione ecologica ha strappato un pochettino dai nostri dizionari quel tema, relegandolo in un angolo delle cantine di movimento, no? Cioè era difficilissimo parlare di questioni ecologiche dentro le lotte, dentro i conflitti e dentro le nostre assemblee. Questo perché? Perché il capitale ne ha fatto uno strumento di narrazione potentissimo, sottraendolo completamente a noi. E questo in cosa si traduce poi materialmente? Da un lato ovviamente tutto quello che gira intorno al food, no? Che è prima ancora che bello, e lo vediamo nella roba degli impiattamenti, è qualcosa che si celebra più di tutto, è la salubrità del cibo, no? È il biologico, è il fatto che faccia bene. E questo secondo me viaggia un po' parallelamente alla dinamica del bello, cioè quello che è buono lo stabilisce comunque il capitale e noi dobbiamo cercarlo, pagarlo profumatamente. Ma non solo il food, con Wolf negli ultimi mesi, un po' sempre in battuta, continuiamo a dirci questa cosa delle bici, di come la tangenziale delle bici, no, che è stata creata a Bologna, che poi è un marciapiede in mezzo ai viali che già c'era, però chiamarla tangenziale delle bici fa molto cool. Sta riscrivendo un pochettino anche il territorio bolognese, no? Quando 4 anni fa con Iterich guardavamo i primi bistro biologici, sembrava follia dire che da lì a qualche mese, anno avrebbero dominato il centro urbano e sarebbe stato un bistro biologico ogni 2 esercizi commerciali. Ora se partiamo un pochettino a quello che sta avvenendo, io faccio 2-3 esempi per chi conosce Bologna, per gli altri non significheranno niente, però in Bolognina di fianco a Fermento, che è un bar bio, poi spesso queste robe poi si intrecciano anche con compagni e compagne che aprono iniziative imprenditoriali, quindi è molto difficile anche spesso attaccare i processi di gentrificazione. Quando al mercato di Via Albani, sto un po' divagando, con Iterich andammo a contestare l'apertura di quella situazione lì, diversi compagni ci vennero a dire guardate che lì sta aprendo uno che sta al centro sociale con noi e quell'altro che fa il vino lo fornisce insieme. E noi eravamo un attimo con le spalle, cioè dicendo ok, però per noi resta comunque una merda questa roba, cioè ci saranno dei compagni dentro, però il problema resta comunque. Quella delle bici di fianco Fermento ha aperto da poco un punto ristoro per ciclisti, in via delle Moline ne ha aperto un altro, Dinamo ha succhiato tutta una retorica nostra di autogestione per costruire un mega spazio concesso dal comune con finanziamenti europei che sembra un centro sociale entrandoci, ma dove si fa profitto sulla bici e fornendo bici facendo un gas e facendo un gruppo di acquisto, una roba a che fare col cibo. Quindi per me questa è una roba che ancora è poco tematizzata dentro i movimenti, ma qui dovremmo cominciare a chiederci anche che ruolo hanno le piste ciclabili, i comitati di ciclisti e questa roba qua nel riscrivere la circolazione urbana, perché chi può andare in bici, no, ne parlavamo, è un soggetto tendenzialmente giovane, in grado di, cioè che possiede una bici e che la vuole utilizzare per muoversi tranquillamente in città, quindi probabilmente non lavora nella periferia, è un soggetto che ha un profilo di classe molto connotato. A questo non sto dicendo che andare in bici è un male, dico che è molto interessante il fatto che oggi in giro per Bologna ci siano dei volantini che lanciano la CMONA, la Critical Mass che fanno ogni 2 settimane a Bologna e recitano ecologico da prima che fosse fico, cioè che c'era bisogno secondo me un po' di riappropriarsi di questa dimensione qua, di un'ecologia, no, anche nostra, che possiamo rivendicare e che possiamo far scontrare contro questa. Io credo che oltre all'analisi puntuale che è stata fatta vada anche tematizzato questo, cioè il fatto che intorno al buono, al giusto, si stanno costruendo dimensioni di potere che possiamo sovvertire rivendicando un'ecologia dei movimenti, rivendicando un'ecologia politica dal basso. Farei un primo giro, poi ce ne sono già altre. Sì. Gestitevi voi, in autogestione. Comincia Giovanni. Io molto velocemente sono d'accordissimo con quest'ultimo intervento e il cannibalismo che è stato operato su questo insieme di temi che sono stati fagocitati, sono stati resi apolitici perché sono stati essenzializzati, resi assolutamente universalistici, ha tolto terreno all'azione politica in una maniera straordinaria. Qui faccio una citazione di tipo invece più video documentaristico, non so se avete visto e se non l'avete fatto ve lo consiglio caldamente, un documentario su su Marsiglia e sul progetto Euro-Méditerranée che si chiama La fête est finie. Il titolo è molto indicativo, quindi La festa è finita, e racconta la storia della rigenerazione marsigliese col progetto Euro-Méditerranée e l'arrivo del Museo delle Migrazioni, in generale di tutta la dinamica di rigenerazione della Belle de Mai, di buona parte di quartiere centrale di Marsiglia. Nel documentario, che è davvero bello, c'è un'intervista a un attivista di quartiere molto intelligente che pensa criticamente a quello che era successo quando loro si erano opposti ovviamente al progetto Euro-Méditerranée, denunciando il lato di speculazione edilizia, e la risposta che lui riceveva dalle istituzioni era: ma noi qui stiamo aprendo delle istituzioni culturali, stiamo aprendo un museo. E lui dice: vi rendete conto che noi a opporci al museo ci siamo fatti dare dei fascisti, perché solamente un fascista è contro un'istituzione culturale. E ci trovavamo nella situazione di essere quelli che si opponevano all'apertura di spazi culturali, per giunta al Museo delle Migrazioni. Quindi, come dire, solamente veramente un fascista è contro il Museo delle Migrazioni, in una città come Marsiglia, che è stata la capitale europea, o quantomeno francese, della storia delle migrazioni del Novecento, quindi, voglio dire, un polo centrale. E lui diceva: è difficilissimo combattere questo tipo di speculazioni quando vengono esattamente gestite con l'istituzione culturale che arriva, l'intervento di rigenerazione, di riqualificazione. Se io ti ripavimento, ti rifaccio l'illuminazione, ti rifaccio tutto il decoro urbano, ti rifaccio la piazzetta che era in condizioni disastrose, questo è un intervento buono o cattivo? È difficilissimo opporsi a quel tipo di intervento di rigenerazione, perché solo un pazzo dice: non voglio l'illuminazione nuova. Però al tempo stesso dobbiamo ritrovare, dobbiamo riprenderci assolutamente quel pallino di discorso politico e ritrovare delle narrazioni che dicano bene innanzitutto com'è che siamo arrivati a quella fatica. Io insisto su questa cosa, cioè non dobbiamo rifiutare con forza l'idea della naturalità del degrado, quello che ci è stato, quello che abbiamo ereditato, la naturalità dell'abbandono. Il naturale lì non c'è assolutamente nulla. Allora, prima parliamo di come siamo arrivati lì, poi dopo discutiamo di cosa farne, però il tema del post-politico, della distruzione degli argomenti politici, tutti i movimenti degli anni 60-70 fagocitati da questa logica della partecipazione, della universalizzazione di questi discorsi, è assolutamente, sono d'accordo. E invece sul tema che diceva prima Wolf, sull'intervento del grande capitale finanziario in questi meccanismi, allora sicuramente c'è, e il meccanismo è fatto per attirare il grande capitale finanziario. Quando arriva però? Allora lì le differenze fra città sono veramente importanti, perché un conto è Milano, per esempio, dove l'emir del Qatar arriva con la sua società e si compra a son di petrodollari interventi di rigenerazione clamorosi e si sostiene tutta la trasformazione di Garibaldi. Milano non è Torino, e proprio non è Torino, e Torino non riuscirà mai a diventare nel bene e nel male, Milano da questo punto di vista nel bene. Milano, faccio l'esempio della cavallerizza nel centro di Torino, in cui di nuovo Cassa Depositi e Prestiti, l'amministrazione, i vari master plan che fanno sulla cavallerizza, l'arrivo di UNESCO, istituzione iperambigua su cui dovremmo di nuovo passarci un paio di giornate, insomma, a lavorare su UNESCO, però bloccando sostanzialmente cavallerizza, mettendoci il logo UNESCO, no, è patrimonio, congelando, quindi facendo schizzare in alto i prezzi della riqualificazione architettonica di cavallerizza, di fatto in una città come Torino, che in questo momento non è appetibile per il grande capitale finanziario, che se va trova molto più interessante Milano, onestamente, su cui investire, la rende talmente costosa che di fatto viene di nuovo ripubblicizzata, e in qualche maniera l'unica istituzione che in questo momento ci può mettere dei soldi e fare qualcosa è o l'università o di nuovo il comune, o qualche piccolo imprenditore, ma non riescono a fare il grosso progetto di speculazione, quella capitale finanziario, perché in realtà il mercato su una città come Torino in questo momento, quello internazionale, proprio non c'è, nel senso che non ci sono i ritorni economici, è ancora troppo depressa. Però questo non è una soluzione positiva, è semplicemente cambiano gli attori. A quel punto chi è che deve farsi avanti? Beh, l'università, Cassa Depositi e Prestiti, che però di nuovo con grosse difficoltà a ricartolarizzare, rimettere in circolazione quella cosa lì, o l'amministrazione, che nel caso torinese poi non è nemmeno l'amministrazione, ma è la fondazione bancaria principale, una delle due fondazioni bancarie che di fatto si è comprata la città negli ultimi 10 anni e che mette soldi, toglie i soldi, fa girare i soldi, ma sono sempre quei due attori là. Quindi se, al limite l'assenza di mercato, che a me non è che dispiace, però l'assenza di mercato significa semplicemente che la città viene riacquistata dagli, dagli attori pubblici e parapubblici, poi comunque non è che ci facciano niente di interessante, fanno di nuovo qualche studentato quando, quando va bene, o fanno aule magne e così via. Sì, brevissimamente sul Cassa Depositi e Prestiti ha chiarito Giovanni. Più vicino, Davide. Sì, ha chiarito Giovanni su Cassa Depositi e Prestiti rispetto al turismo e a Airbnb. Io non sottovaluto l'importanza, perché Bologna non è Venezia, ma rispetto alla volatilità del processo, questo è importante. Mi piacerebbe più parlare appunto di patrimonio, processi di patrimonializzazione, messa a valore nella trasformazione del territorio, più che appunto di turistificazione di per sé. Le fortune di Bologna, io parlo di Bologna perché quello che conosco, non avendo studiato il fenomeno nazionale, quindi non conosco bene il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti in questa potenziale strategia. Il ruolo del pubblico è a traino del privato a Bologna. L'amministratore arriva a dare una patina di legittimità a quello che hanno già avviato processi privati. Su Figo e sulla strategia di Italy è lampante, ma anche sui mercati rionali, se andiamo a vedere i nomi e cognomi dei proprietari, per esempio di chi ha fatto gli investimenti sul mercato delle erbe, è tutta gente connessa al, e famiglie che lavorano già nel mondo della ristorazione e del food a Bologna. E naturalmente poi arriva un immaginatore cinico a rivendicarsi l'operazione, questo è fuori di dubbio, ma quello che è più mi sembra interessante è ragionare appunto di nuovo sui processi di patrimonializzazione, cioè di messa a valore del bello o di quello che vogliono far passare come bello e come necessario da appunto da togliere dal degrado nella sua messa a valore. Proprio in questo processo qua chi si oppone subisce lo stesso trattamento della critica primitivista, quando veniva fatta per esempio penso alla TAV, all'alta velocità, chi si opponeva alla ferrovia, no? Era un primitivista, era peggio di un luddista, no? Non vuoi il progresso, non vuoi il trasporto, non vuoi la mobilità su ferro, siete per le auto, come se non volere il museo delle migrazioni, appunto, essere fascisti. A me purtroppo invece, quando abbiamo cancellato il murales di Blu, ha pianto il cuore, cioè nel senso perché lo preferivo al grigio. È stato un passaggio necessario per la sottrazione di un processo di messa a valore, però non so se sono completamente, dal mio punto di vista poi è una questione di sensibilità, completamente d'accordo nell'accontentarmi nel cambiare di segno al degrado, cioè nel dire che il grigio, siccome fa schifo ai padroni, allora piace a me. A me piacerebbe che a XM facesse meno freddo. Che uno potesse fare pipì senza doversi arrampicare, insomma, e altre mille cose che potremmo fare tutti insieme e dovremmo, insomma, però voglio dire, non ho il feticcio del degrado perché sono arrivato al momento di cambiare il disegno. Secondo me, se veramente volessimo fare un ragionamento sui processi di significazione, appunto sulle narrative legittimanti, che poi sono quelle che alimentano le trasformazioni urbane, perché le ruspe vanno a parole, non vanno a benzina, è veramente un livello prima su cui dobbiamo intervenire, cioè sui processi di appropriazione e di... appunto di significazione collettiva di quello che è bello e quello che no, e che però sta nel quadro dell'egemonia culturale, delle narrative legittimanti, eccetera eccetera, perché quando arriviamo un po' alla fine, insomma, solo a cambiare di disegno perché è quello che abbiamo, a me dà un po' l'impressione della resistenza all'angolo, no? Quando siamo in una condizione di residualità no? E stiamo in un angolo a resistere, e quindi però per ritornare al tema di Airbnb, il tema dei dati, rispondo solo a te su questa cosa qua, c'è un pazzo che lavora all'Istat e che ha fatto una stringa di attacco al sito, per cui lui raccoglie dati da Airbnb attaccandolo quotidianamente e li ridistribuisce a altri pazzi che li analizziamo e cerchiamo di cavarci fuori dei risultati. Ti passo tutto quando ci vediamo. Comunque è un tema importante rispetto alla fabbricazione dei dati, a cui noi tutti partecipiamo continuamente attraverso appunto l'utilizzo di questi qui e dei social network eccetera eccetera. Airbnb però si guarda bene dal non diffondere i dati. Quando voi accedete alla pagina vi dà massimo 37 risultati. Quando a Bologna, ve l'ho detto, ci stanno 7.000 offerte al giorno, vi danno 37 risultati quando andate nelle varie città eccetera eccetera, tutto in base al vostro profilo di accesso al programma, che è tutto appunto determinato dal vostro pregresso sui vari account che avete, che abbiamo insomma. E quindi quello dei dati e della produzione di Urbano e di chi è veramente proprietario della conoscenza, che poi in fondo determina i processi di trasformazione dell'urbano, insomma quello sarebbe tutto un altro capitolo ancora da decidere, perché da quando è sfuggita al pubblico tutta questa tematica qua, sono i dati delle nostre città, dei nostri vicini di casa, stanno su server che stanno salvaguardati da leggi insomma diverse. Io ho detto due cose velocissime sugli spunti che sono emersi. Uno riguarda la questione, diciamo, delle pratiche rispetto a Airbnb, rispetto a queste cose. Come dicevo prima, secondo noi bisogna anche guardare molto al discorso dei soldi, fondamentalmente. Cioè, fondamentalmente questo processo di turistificazione in itinere, vero, reale, quant'è, comunque è un processo che provoca vincitori e vinti e che di fatto poi porta dei soldi a qualcuno e toglie ad altri. Se, secondo noi, bisogna riuscire appunto a rovesciare, a ribaltare, andare oltre questa questione del dualismo Airbnb usato da chi ha soltanto a casa sua Airbnb, perché il discorso è che fondamentalmente, per esempio, su Bologna, ma come anche altre città come Venezia, come Roma, per esempio, il comune ha firmato negli ultimi mesi un accordo con Airbnb per il quale le tasse di soggiorno vengono riscosse automaticamente dal comune, non più come prima invece date singolarmente. Per esempio su questa roba qua, nel momento in cui si delinea uno scenario di vincitori e vinti, il fatto, per esempio, di dire che se vengono raccolti 50.000 euro l'anno di tasse di soggiorno per quello che riguarda l'Airbnb, quei 50.000 euro devono essere messi per finanziare una moratoria sugli sfratti. Questo, per esempio, è un meccanismo che permetterebbe, e su quale stiamo anche ragionando, valutando un attimo, di sorpassare questo discorso e provare a dire: è un meccanismo di redistribuzione della ricchezza verso i ricchi che toglie i poveri, proviamo a costruire un meccanismo per il quale invece ribaltiamo questo piano, quindi diciamo se ci sono dei benefit che riguardano la questione del turismo noi ce ne appropriamo in questo modo qua. Ovviamente questo è un piano di mediazione molto difficile da costruire e che evidentemente poi necessita anche della costruzione poi di un percorso di lotta forte, che era quello che per esempio anni passati, quando avevamo appunto tutte le occupazioni esistenti, ci permetteva comunque di andare quasi settimanalmente in comune in 100, 200, 300 persone, chiedere X o Y. Per esempio Bologna è l'unica città dove il piano casa di Lupi era stato rotto, con il fatto che eravamo riusciti a far rimettere l'acqua da quella che avevano tolta in Via De Maria, quindi di fatto lì è sempre un problema anche di capacità di forza politica, però sicuramente questo è un nodo che va toccato, perché evidentemente l'unico modo per superare appunto questo discorso è quello di riuscire a capire dove vanno i soldi e riprendersi. L'altro tema, che è quello che diceva prima Ciccio, secondo me anche su questo si può usare la lente del turismo, diciamo. Il fatto che, per esempio, una città diventa turistica porta anche di conseguenza a un cambio di atteggiamento pure delle istituzioni nei confronti di quelle che sono le dinamiche repressive, no? Adesso non voglio fare esempi catastrofici o apocalittici, basti pensare a Barcellona, l'attentato di quest'estate, piuttosto che al Bardo, la questione tunisina, eccetera. Comunque una meta che diventa turistica automaticamente poi, diciamo, entra anche all'interno di una serie di logiche che evidentemente poi producono anche una reazione da parte delle istituzioni anche in termini normativi, no? Cioè, per esempio, l'anno scorso quando ci fu tutta la questione a Roma di Piazza Indipendenza, se vi ricordate, oltre al piano dello sgombero per ragioni igienico-sanitarie e quant'altro, anche la motivazione che veniva data, anzi soprattutto quella che veniva ripresa dai giornali, da quella che diceva lì c'è la possibilità che si possano annidare covi di terroristi potenziali e quindi noi in una situazione di illegalità dobbiamo necessariamente salvaguardare la tenuta della città, l'ordine pubblico eccetera, quindi ogni situazione di illegalità non può essere tollerata. E questo è un meccanismo veramente molto rischioso e molto grave, perché lo stanno utilizzando, lo vogliono utilizzare con appunto la psicosi magari del terrorismo o della turbativa rispetto alla gestione ordinata della città, dei flussi del turismo eccetera, come meccanismo per disciplinare tramite ordinanze ad altre tutte quelle che sono invece diciamo operazioni di vita in comune o gestione che sfuggono a questo tipo di controlli. Quindi da un certo punto di vista anche questo è un altro nodo, che quello che riguarda appunto da un lato la repressione, da un lato l'ordine pubblico e la costruzione di una città sicura, perché è evidente che un turismo che si vuole, una città che si vuole propagandare come turistica senza sicurezza almeno sbandierata non può farcela. Quindi su questo piano qui è evidente che anche magari l'escalation repressiva nei confronti delle occupazioni abitative e degli spazi sociali a Bologna può essere letta probabilmente anche in questi termini, cioè tolleranza zero con tutto ciò che non è compatibile con una città di città, con un'idea di città turistica, perché appunto per i motivi evidenti. Faccio una nota solo su... No, due colossi del, che sono determinanti nei flussi turistici di Bologna in realtà e caratterizzano la sua effimeratezza, sono appunto due colossi che hanno a che fare col petrolio, cioè Ryanair e l'ISIS, che in modo diverso determinano il fatto che i turisti vengano a Bologna, cioè Bologna diventa una meta turistica nel momento in cui tutta una fetta di Mediterraneo viene sottratta ai flussi del nord Europa e soprattutto degli Stati Uniti. Il turista che viene la seconda, la terza volta e ha visto Roma, Venezia e si comincia anche a annoiare, ci mette in mezzo Bologna e Firenze, quindi le due mete turistiche Firenze e Bologna hanno subito una potente accelerazione grazie alla crescente insicurezza dei siti turistici del Mediterraneo e di un altro opzione del tutto effimera che è Ryanair, che potrebbe insomma vive in funzione del margine di profitto ricavato anche grazie ai contributi pubblici, quindi potrebbe, è un vettore che potrebbe da un momento all'altro spostarsi e ridefinire tutti i flussi, oltre a tutto il tema della repressione insomma di cui parlava Smitch. Sentiamo se qui si sente. Ma no, sì. Vieni qua, se c'è un intervento prima mentre io arrivo. Ah, perché c'è quel problema lì. Ci sono tre posti liberi qua davanti. Io devo andare a fare la pipì. Allora, volevo un po' provare a fare un po' un discorso generale e in realtà ricollegarmi un po' alla giornata di domani che ci sarà, di questi tre giorni. Vediamo se viene. Nel momento in cui parliamo di food e di turismo in una città come Bologna, in questo momento una delle cose da tenere in conto è che stiamo parlando di, in qualche modo, due industrie gigantesche che vanno a incidere ovviamente sulla città, proprio sull'urbanismo della città, ed è questa la cosa su cui mi volevo un po' soffermare, sulle forme di vita della città. Banalmente è diventato molto complicato per tutti decidere dove andare a pranzo, a cena. Non so quanto tempo ci avete impiegato a decidere dove andare a pranzo tra un incontro e l'altro oggi, almeno un quarto d'ora per ciascun gruppo. Perché? Perché ormai è entrata questa modalità di pensare per cui andiamo in un posto piuttosto che in un altro ancora, cosa a cui non eravamo abituati. E nella nostra scelta, evidentemente, compiamo delle scelte che sono significative per la città del food. Però non volevo limitarmi solo a questo, a noi in quanto consumatori, ma anche a richiamare un po' il tema del lavoro. Nel momento in cui ci troviamo a due grandissime industrie, sappiamo che le nostre competenze o le nostre vite devono andare, se vogliamo pagare l'affitto, principalmente, o comunque molti di noi lavorano in una di queste grandi, chiamiamole industrie, lo so termine è improprio, facendo per esempio un io, veramente, perché questa è la vita che ho. Io insegno letteratura portoghese, una letteratura bellissima, suggerisco di leggere Stamato, però per pagare l'affitto devo lavorare in una cucina dove non ho un contratto decente, ma riesco a lavorare solo 5 ore a settimana perché è molto più comodo per il datore di lavoro farti un contratto a poche ore. Oltretutto, chi è che lavora più ore di me? Lavora più ore di me una persona che ha un contratto ancora più sfigato del mio. Nella fattispecie richiedenti asilo che lavorano 20 ore a settimana per un totale a fine del mese di 200 euro. Prendiamo più o meno, non dico la stessa cifra, ma io lavoro un quarto di loro. In questo sistema, questo è veramente un sistema industriale, che tende a mettere persone, e in alcuni contesti poi lavoratori e lavoratrici, uno contro l'altro. In questo sistema diventa effettivamente molto, molto difficile tenere la barra dritta e capire a un certo punto chi è effettivamente la persona contro cui te la devi prendere. Ed è forse questo il primo errore, perché nel momento in cui ci apprendiamo solo con la persona, solo con l'individuo, compiamo un errore di ragionamento, perché a meno che tu non sia un grande esponente di queste industrie, in realtà è sbagliato far ricadere sull'individuo, che comunque ha le sue responsabilità, ma è comunque sempre sbagliato far ricadere sul singolo individuo le responsabilità di un sistema, le responsabilità di avere un contratto minimo. No, bisogna tenere la barra dritta, per me in questo momento, vuol dire rendersi conto che ci sono grandissimi e immensi capitali che si stanno spostando, sono tendenzialmente, si spostano tutti verso l'alto, mentre noi che magari proviamo ad avere anche dei consumi responsabili o delle relazioni felici con le persone che ci lavorano accanto, anche se a causa di questi contratti siamo messi uno contro l'altro, tenere la barra dritta vuol dire comunque guardare che i soldi principalmente circolano quasi tutti verso l'alto. Lo dicevo anche perché questo ci consente di non guardare solo il singolo che apre il negozietto un po' più cool, che sia in Bologna, che sia altrove, ma guardare sempre a cosa succede molto più al di sopra, perché questi fenomeni che stanno avvenendo vanno molto al di là del singolo. Nel momento in cui facciamo ricadere la responsabilità su una persona, su un piccolo gruppo di persone che non ha la forza in realtà di incidere così tanto sulla città, secondo me stiamo compiendo un errore proprio di prospettiva. Ecco, mi ero ripromesso di parlare di più della giornata di domani, non l'ho fatto, se non per poco. Domani si parlerà in generale di migrazione, il primo tavolo sarà appunto dedicato soprattutto alla questione del lavoro e dello sfruttamento lavorativo. Come salmoni in salmo alla corrente. Come impossibile? No, dai, quando mi sentite, sì? Sì, no? Vai, stai in piedi e urla molto. Tanto per ricollegarmi a quello che diceva Paolo, per fare da ponte sulla giornata di ieri, passato da oggi e arrivando domani, quindi sulla questione dell'immigrazione e lavoro. Oggi il focus è stato sulla città, l'elettrificazione, un fenomeno che riguarda essenzialmente la città. Come avviene questa? Molto abbiamo riflettuto attraverso il cibo, proprio il topos del cibo. La città prende luogo di distribuzione e di vendita del cibo. Dove il cibo viene prodotto? Forse è in altre sedi, in altri contesti, in altri spazi, in altri luoghi, con dinamiche assolutamente diverse. Quindi appunto il ponte su domani, soprattutto sul primo tavolo che sarà su migrazione e lavoro, andrà a indagare come viene prodotta una certa forza lavoro in maniera più o meno rigorosa, utilizzando strumenti diversi da quelli che si utilizzano nella città, come sono state le ordinanze, ma in un modo che è funzionale comunque a una valorizzazione di una certa manodopera che è quella migrante. Questo tanto per ricollegarmi alla giornata di domani, soprattutto al primo tavolo. altro o facciamo un giretto al volo, nel frattempo qualcuno medita? No, un giretto al volo, siamo fermi. Ma butto lì solo una piccola notazione. Sono contento che sia rientrato anche Davide, perché lui parlava appunto delle ruspe che funzionano con parole e sulla produzione del cibo, e come anche il discorso sano, poi appunto bisogna fare attenzione, no, anche allo spavento per la sussunzione, dobbiamo sempre poi anche saperlo superare, nel senso che poi alla fine le dinamiche economiche sono grosse e le sappiamo riconoscere, e credo, come dire, che tra le tante firme, per esempio, che hanno firmato una petizione che era partita con un botto l'anno scorso contro Airbnb, contro Airbnb, per capirci, insomma, con una richiesta di verifica su quelle cifre, su quei dati, su quella crescita, era partita col botto, sono convinto che c'erano anche tanti studenti che avevano affittato la propria cameretta, però insomma sono poi meccanismi da cui non dobbiamo lasciarci intrappolare, perché poi le stesse persone, come dire, sanno riconoscere, poi in fondo in qualche modo possiamo anche essere capaci in un'ottica mutualistica di darci un po' di strumenti, magari che questa roba qui ce la facciamo poi anche tra di noi, però ecco, come la grande capacità, no, di rimettere a reddito il discorso e di produrre parole che diventano ruspe. Di nuovo sul cibo operi, rispetto anche all'accenno che facevi adesso, dove viene prodotto il cibo? Ecco, anche questa domanda, per esempio, in un'operazione che ho la sensazione che stia per partire sui mercati rionali romani, credo che partirà attorno a questa domanda: dove viene il cibo che viene prodotto nei mercati rionali? E l'altra domanda sarà appunto: è il cibo sano? Quindi, come dire, anche lì i temi tornano. Io credo che noi abbiamo la capacità di affrontarli, però ovviamente dobbiamo anche stare molto attenti a non farci risucchiare dentro questo meccanismo. Le cose le abbiamo abbastanza chiare. Dove vanno a parare questi meccanismi ce l'abbiamo decisamente chiaro. Scusate, non volevo riprendere altro tempo. Due cose sulle ultime sollecitazioni. Io non ho sentito domande, non fare la pipì. Posso cantare una canzone? A me sembra tutto molto chiaro l'impasto tra lavoro, scelte individuali, scelte collettive e l'idea di cercare di trovare dei fronti politici che non siano di criminalizzazione della scelta individuale e invece di responsabilizzazione delle scelte individuali e poi di creazione di nuovi fronti. Sulla questione appunto delle case, degli affitti, ma anche delle attività economiche, il fenomeno è chiarissimo. Abbiamo fatto una ricerca su San Salvario, Torino, e in piena fase di boom, di gentrification commerciale, ed era interessante, ma era drammatico il tipo di interviste che facevamo, perché le persone che intervistavamo avevano una vita media di attività commerciale di un anno e mezzo. Tant'è vero che in una tesi di dottorato che avevo seguito, una parte di questi li erano proprio chiamati kamikaze, nel senso che erano delle attività pseudo-imprenditoriali in cui si lanciavano moltissimi giovani, insomma, nella definizione italiana di giovani, insomma, 30-40 anni, giovani che impiegavano i capitali familiari del TFR, dei genitori o soldi messi via nella prima fase di accumulazione post-bellica, in quella che sembrava essere l'unica attività economica possibile in una fase di rilancio della città, rilancio post-olimpico, e quindi era: apro un locale col Deor. Il problema è che in un quartiere come San Salvario, banchiglia uguale, centro uguale, tutti stavano facendo esattamente la stessa cosa, e quindi la durata media di quel locale era bassissima, perché o eri un imprenditore, quindi qui, come dire, frammentiamo e differenziamo il fronte, o eri un imprenditore che poteva fare delle economie di scala sui lavoratori, c'erano molte attività che erano, aprivano la quarta sede in città e quindi potevano fare dei giochi sulla contabilità, su spostare lavoratori in fasce orarie diverse e così via, e quindi potevano reggere l'impatto in realtà di una concorrenza spietata e di prezzi che continuavano a abbassarsi, insomma i ciupiti che continuavano a crollare, gli spritz che non costavano più niente. Oppure se eri solamente tu con il locale che avevi affittato, mi devi pagarci anche l'affitto, i lavoratori e così via, in realtà questi non tenevano minimamente al mercato. Allora, di nuovo, non era una questione di vittimizzare solamente anche le iniziative commerciali e imprenditoriali, perché lì dietro ci sono delle storie di dissipazione di capitali che non erano capitali di investimenti finanziari internazionali, no, erano capitali familiari, erano sudore, erano lavoro della generazione precedente che venivano bruciati nel giro di un anno e mezzo. E quindi sono assolutamente d'accordo, questo vale su tutti i fronti, cioè c'è moltissimo lavoro da fare, molto lavoro politico da fare su tutti questi fronti, solo che è veramente difficile trovare dei fronti comuni. Questo però la sfida, sono d'accordo assolutamente, questa. Allora, al volo, giusto un attimo sullo spunto che riguardava i nessi tra questa discussione, magari uno sguardo più complessivo sulla città. Le prime occupazioni di Social Log erano, per esempio, costruite, formate la base degli occupanti, erano operai della logistica, spesso comunque dell'Interporto di Bologna, che una volta avevano perso il lavoro per appunto delocalizzazioni, licenziamenti o quant'altro, perdevano di conseguenza anche la casa perché non riuscivano a pagare l'affitto e quindi automaticamente si mettevano nella condizione di dover trovare una soluzione, e quindi molto spesso venivano ad occupare. Quindi da questo punto di vista è assolutamente giusto cercare di legare un pochettino tutto quello che si è detto oggi ha un ambito più allargato di sguardo della città, perché comunque se partiamo dall'ipotesi che una città che diventa turistica è anche una città che appunto perché si basa su un certo tipo di nuova forma di estrazione di valore deve anche necessitare di, tra virgolette, un codice che amministri la piattaforma che si va a costruire appunto al posto della città, automaticamente tutti quelli che sono poi diciamo i flussi, che collegano i flussi, sono appunto i rider che consegnano il cibo a domicilio, sono gli operai dell'Interporto dal quale magari partono le consegne del latte per le colazioni nei vari bar, sono tutti quei soggetti che comunque in questo momento abbiamo storicamente sempre anche visto magari come segmenti diversificati tra di loro in termini di possibilità di azione politica, no? C'è l'occupante di casa, c'è lo studente, c'è il lavoratore, eccetera. In realtà nella città che si costruisce sempre di più su un'unica piattaforma, sempre di più su un'unica serie di flussi collegati che di fatto poi sono sempre più inestricabili l'uno dall'altro, probabilmente anche qui la questione di dove tutte le politiche pubbliche che vanno nella costruzione di questa città turistica, che per esempio poi parlano anche di altre questioni, no? Basta pensare pure al mondo, non so, dell'arte che si diceva prima, no? Tutte queste mostre che stanno nascendo in città dal nulla, di dubbio gusto anche, dove magari lavorano per giorni e giorni studenti come secondo lavoretto, magari anche sottopagati, è tutto un sistema di lavori, di lavoretti che sono gli ingranaggi di questa città sempre più turistica, sempre più basata appunto anche sul cibo, sullo sfruttamento all'interno del settore della ristorazione, eccetera. Tutti questi nodi qua probabilmente vanno visti all'interno di un unico quadro, di cosa vuol dire fare comunque una lotta metropolitana che si possa basare su tanti pezzettini all'apparenza diversificati, ma poi in realtà hanno un unico punto comune, che è l'attacco appunto a come vengono ridistribuite le ricchezze che vengono generate da questi tutti piccoli pezzettini. Quindi questo è veramente lo sguardo che bisogna darsi uno sguardo metropolitano alle lotte, immaginarsi la città anche come qualcosa di più ampio, no? Qualcosa di diffuso, per esempio vedere un confine tra centro città bolognese e Interporto, per noi ormai fondamentalmente folle, perché implicherebbe comunque sbagliare l'analisi politica, quindi su questo veramente c'è una ricerca e un tentativo anche di prassi politica collegata da iniziare. Solo sulle suggestioni che hanno appunto detto Michele e Giovanni, rispetto alle possibili sfumature sia nel campo nemico, no? Appunto non sempre dall'altra parte c'è il capitale finanziario internazionale, non sempre c'è Unipol, a volte succede appunto che ci stanno, come diceva il compagno di Rich, ci stanno anche dei compagni o delle situazioni comunque a cui noi facciamo una certa fatica a rifiutare in termini direttamente ideologici, quindi sia a valutare sempre la ricchezza di sfumature nel campo avversario, anche dentro al nostro, che è quello appunto della lotta. Sono perfettamente d'accordo sulla lettura metropolitana del problema e sulla questione sistemica della ridistribuzione delle ricchezze. Esistono molte sfumature di lotta prima di solo rimanendo su questo argomento, prima di arrivare naturalmente all'occupazione degli appartamenti di Airbnb, su quale mi troverete sempre d'accordo, ma per esempio smettere di fare aperitivi in certi bar, per esempio rivendicare certe pratiche residuali, come per esempio continuare a ostinarsi a sedersi con una birra da certi, in alcuni posti, inventarsi picnic dove non stanno scritti. In Francia lo fanno tutti i picnic, da noi è una poverata, però insomma in Francia bevono tutti la roba che si portano a casa, no? Scoperto da poco. E anche per esempio riattivare un forno di quartiere, come potremmo provare a fare in Bolognina, anche ragionare su ristoranti o mense popolari, e insomma a molti altri livelli, anche come la sperimentazione che sta facendo Campi Aperti con come si chiama, Camilla. Ci sono tante altre sfumature di contrapposizione. Il rischio lì è sempre quello della sussunzione da parte del nemico, visto che cioè uno fa in tempo a girarsi che Lepore ha preso lo striscione, l'ha girato al contrario e ci ha scritto PD. No, libertà e partecipazione, insomma uno non fa in tempo a inventarsi una roba che subito viene sussunta. Il gioco può essere quello di stare dentro a queste pratiche e in senso rivoluzionario spostare sempre l'asticella del conflitto un poco più su. Quindi nel momento in cui viene sussunta la pratica, per esempio, del mangiare in giro, come può succedere che viene istituzionalizzata, no? Penso all'esperienza di Concibò, quella di stare negli spazi pubblici e preparare dei picnic e stare tutti insieme, una pratica rivendicabilissima. Nel momento in cui viene qualora venisse istituzionalizzata, recintata e chissà magari in un secondo momento anche messa a valore, si potrebbe sempre spostare l'asticella un po' più su quella del conflitto, nel senso per esempio pratiche di quartiere come in Inghilterra ho visto fare di bloccare le strade per un paio d'ore per farci giocare i bambini, quindi sottrarre al traffico alcune porzioni micro di città, no? Beh, sembra una fricchettonata, però in realtà spostando continuamente l'asticella del conflitto sempre un po' a un livello più alto, anche con la promiscuità, l'eterogeneità delle pratiche, secondo me sono su questi temi, perché poi sui temi del lavoro, sui temi della casa eccetera eccetera rimango comunque per il conflitto diretto, insomma sono comunque delle pratiche residuali che secondo me vale comunque la pena salvaguardare, visto che tanto parliamo di tempo libero nella maggior parte dei casi quando si parla di food, quindi scelte davanti a cui la maggior parte di noi si trova, come diceva appunto il compagno della palestra dove andare a mangiare adesso, no? Cioè organizziamoci in un'altra maniera, perché tanto cioè, davanti a queste sfide qua ci stiamo sempre, tutti i giorni, continuamente. Il rischio è solo quello della sussunzione. Sì, mi sembra che sia un campo di dibattito molto aperto, quello sugli operatori, che forse sì, richiede un approfondimento, che sicuramente è vero il discorso che alcuni sono magari i piccoli investitori locali, però il FICO per esempio sta in piedi non tanto grazie alle COP, anche grazie alle COP, ma grazie ai fantastici fondi pensionistici privatizzati nel 2015 di una serie di categorie professionali che ci hanno buttato dentro un botto di milioni. Quindi questo campo attraverso evidentemente uno spettro diverso e anche solo individuarlo, scegliere quali sono i soggetti su cui appuntare la nostra critica, non è difficile, basta individuarli, è un primo elemento importante. Io, allora, se ci sono altre domande, se invece non ci sono, andrei serenamente, lentamente verso la chiusura e verso l'aperitivo naturalmente, senza però dimenticare due premesse. La prima è il barattolino e la seconda è che magari qualche compagno o compagna che è più sul pezzo sulla giornata di domani viene a presentare un minuto. La serata di stasera. Sì. Allora, tutti i compagni che sono più sul pezzo su ciò che avviene da adesso in poi vengano e lo dicano ora o tacciano per sempre. Allora, brevemente sulla giornata di domani, che dovrebbe concludere da tre giorni. Premetto che è la giornata più complessa del tempo, infatti, a tre incontri invece di due. Si inizia, sarà alla palestra Gino Milli, che è in via Gandusio, numero 6, di fronte al circolo Arci Guarnelli, e avrà due momenti, la mattina e il pomeriggio. La mattina si inizia alle 11, chiaramente sarà alle 11 e un quarto. La tematica sarà il lavoro, nel pomeriggio alle 14, e non alle 15 come vedete nel quaderno che c'è scritto male, alle 14 sarà un tavolo intitolato dispositivi di governo, in cui si vede come il potere riesce a essere sia forte che schizofrenico, e infine uno strano caso di tavola rotonda, assemblea, in cui abbiamo provato a mettere insieme, ed è per questo che dico che è la giornata più pericolosa, operatori d'accoglienza, attivisti di movimenti solidari dei migranti e migranti stessi che prenderanno parola. Vi invitiamo quindi caldamente a partecipare anche domani. No, sulla festa XM non sono preparato. Non c'era la serata XM. Sì, c'era la serata XM. Serata bene. Ma non era per questa cosa? No, c'è comunque una serata bella. C'è comunque una serata bella. Serata bella per gli arrestati anarchici. Solo anarchici. Serata gli altri no. Dopo l'aperitivo, ok. Allora, grazie davvero agli intervenuti, agli invitati di oggi, di ieri, di domani. Grazie a questa buona straordinaria partecipazione. Il benefit di quelli sono che sono la serata AXM per la 3 giorni.